il modulo. Soprattutto è evidente che gli interventi sono possibili per quel che riguarda appunto la successione, no, della discussione di volte in via via che questa qui si porta avanti, insomma. Cioè è presumibile che dopo gli interventi dei primi amici che verranno a parlare qui al tavolo, probabilmente ci saranno degli stimoli che porteranno qualcun altro a intervenire su questo intervento. Questo è possibile, basta farlo sapere, insomma, no? Poi sarà a Ruffilli di ordinare la discussione. Per rendere possibile la registrazione degli interventi, che è abbastanza importante per noi, io chiedo a coloro che sono iscritti, che verranno chiamati dal Presidente, di venire al tavolo, di sedersi lì, e chiedo anche di dire prima di iniziare il proprio intervento il nome, in modo che poi sia possibile nella trascrizione eventuale rintracciare l'autore. I lavori oggi continueranno, direi, a esaurimento, insomma, cioè finché non ne potremo più. Penso che verso le 6:30 finiremo, insomma, in mezzo ci sarà, immagino, una pausa, e poi il programma dei lavori prevede libertà per questa sera, che significa che il pranzo di questa sera, ahimè, non è compreso nella modestissima organizzazione nostra. E poi dopo invece prevede la ripresa dei lavori domani mattina alle 9, possibilmente in punto, presso la sede della Facoltà di Sociologia in via Verdi, che è vicinissima all'albergo in cui voi siete alloggiati. Domani mattina la discussione dovrà riprendere e continuerà fino ancora una volta all'esaurimento, cioè verso l'una o nel mezzo, non lo so. Dopodiché ci sarà un pranzo, una riunione, insomma, conviviale, questa volta compresa nell'organizzazione appunto dei lavori, e dopo io credo che dipenderà un po' da come noi saremo soddisfatti, da quante forze avremo, eccetera eccetera, se continuare oppure no, e con chi i lavori pomeriggio. Ecco, la sede è disponibile evidentemente all'università, dipenderà solo da noi, dalla nostra valutazione, compiere la scelta di continuare oppure no. Come criterio che noi abbiamo usato nell'organizzazione, insomma, degli interventi, delle prenotazioni degli interventi che sono state, direi che abbiamo scelto di iniziare la discussione oggi con alcuni interventi che si erano presentati come interventi di carattere generale, in modo da non lasciare cadere le suggestioni di tipo generale che erano venute dalle quattro introduzioni di questa mattina. Ecco perché gli interventi invece sono magari più attenti a situazioni specifiche e così, probabilmente sono spostati a domani. Questo è stato un ordine di lavoro che abbiamo utilizzato, uno valeva l'altro, abbiamo scelto questo, credo che non ci siano problemi. Detto questo, darei proprio la parola al professor Ruffilli di Bologna, dell'Università di Bologna, che prende l'inizio. Penso che il titolo vero per la mia presidenza sia la mia non frequentazione di questi studi. Ciò che può dare forse una certa garanzia di imparzialità da una parte, e dall'altra parte magari può essere uno stimolo dall'esterno alla organizzazione dei nostri lavori. Perché vorrei che fosse chiaro, la mia vorrebbe essere una presidenza attiva. È vero che buona parte del lavoro me l'ha già tolto Schiera con l'accusa di dare le comunicazioni organizzative, ma nonostante questo, la mia vorrebbe essere un tipo di presidenza che cerca almeno di realizzare un obiettivo, che è quello di vedere se, facendo uno sforzo assieme, arriviamo a valorizzare le due dimensioni presenti nelle relazioni che fino ad ora abbiamo ascoltato. E cioè, quindi, da una parte, diciamo, interventi che stimolino, che precisino punti controversi e punti specifici emersi nelle varie relazioni, e al tempo stesso interventi che analizzino alcuni dei problemi generali che sono venuti fuori da queste relazioni. Certo, la perfezione vorrebbe che noi avessimo interventi che uniscono entrambe queste dimensioni, ma forse questo non è possibile. Un dato organizzativo prima di concedermi la parola, diciamo, come primo intervento, è che io penserei di seguire un po' il metodo anglosassone, si fa per dire, e cioè 10 minuti a disposizione di ognuno delle persone che intervengono, con la possibilità di giocare su altri 5 minuti. In concreto, io ai 10 minuti, se la persona che interviene non ha finito, mi permetterò di fare un segnale o acustico o altre cose del genere, in modo da ricordare che scade il gong prima degli ultimi 5 minuti. Alla fine del 15° minuto, con molto rispetto, molto affetto e anche molta devozione, però sarebbe mia ferma intenzione di togliere la parola. Questo non è un auspicio a cercare di concludere rapidamente prima, ma è solo un invito ad organizzarsi bene prima di venire da questa parte del tavolo, misurare un po' il tempo, in modo che il dibattito che noi andremo a fare sia veramente proficuo ed utile per tutti. In un contesto di presidenza attiva, verso la fine diciamo dei nostri lavori, se mi accorgessi che c'è tempo, precetterò qualcuno a parlare, tanto per dare un momentino di movimento al tipo di dibattito, diciamo. Detto questo, mi darei la parola per un intervento che vuole essere molto dall'esterno, è volto quindi non già a richiamare i punti emersi nelle varie relazioni, questo è emerso per taluni profili dalle relazioni stesse, Schiera a sua volta alla fine di ogni relazione ha fatto delle precisazioni, non vorrei fare l'ennesimo riassunto o adottare la solita tecnica di far passare per punti miei, voglio dire, cose emerse nelle relazioni o viceversa. Detto questo, vorrei richiamare rapidamente alcune cose per buttar lì, se del caso, se riesco a fargliela, alcune suggestioni soprattutto per le discussioni, per gli aspetti di carattere più generale. E se penso al motivo che mi ha spinto a venire qui ad ascoltare le relazioni che abbiamo ascoltato stamattina, al di là del mio affetto per gli Schiera e per i Prodi, devo riconoscere che lo stimolo vero è venuto dalla mia frequentazione degli studi di storia delle istituzioni e dalla convinzione che sta emergendo nell'ambito di questi studi sulla necessità di collegare l'analisi degli ordinamenti a una storia della società che voglia essere storia del funzionamento complessivo della società, storia delle strutture di questa società intesa nel senso più lato. E a me sembra che si sia in fondo stamattina realizzato attraverso le relazioni un sospetto che io avevo avuto per quanto riguarda la portata del nostro piccolo convegno, e cioè il collegarsi di questo a una fase di crisi, ma non in senso negativo come noi siamo soliti intendere, ma in senso anche positivo, degli studi sull'Italia moderna, degli studi modernisti. In che senso? Nel senso che credo una serie di letture che fino ad ora hanno prevalso, una serie di metodologie che fino ad ora sono state adottate, vengono ritenute insufficienti o comunque insoddisfacenti. Penso che il problema vero anche per la storia dell'Italia moderna, come più in generale per la storia anche dell'Europa moderna, sia quello di mettere in moto, ognuno diciamo a suo modo, per le vie le più diverse e anche le più libere, una storia diciamo della società italiana, della società europea nel suo complesso, che superi un po' alcuni limiti che sono venuti fuori da letture più propriamente storicistiche o anche da letture marxiste. Non sono qui a proporre quella solita novità del nostro paese che è la terza via fra l'una e l'altra. Cioè, questo vorrei che fosse chiaro perché posso avere degli abbandoni, ma in fatto di terzeviismo, però, voglio dire, non ho peccato. Voglio solamente dire che credo che si imponga un momento di generale verifica sul funzionamento complessivo di queste società. E devo dire subito che questo secondo me passa attraverso l'approfondimento che stamattina è stato avviato di una serie di aspetti precisi. Il discorso sulla storia economica, se volete, il discorso sulla storia delle ideologie, il discorso sulla storia del sistema di potere, il discorso anche sul ruolo in tutto questo contesto della Chiesa, specie per quanto riguarda la storia del nostro paese. E proprio per dare un contributo in questa direzione, io mi chiedo se non varrebbe la pena di prendere maggiormente in considerazione, non per applicarli in modo meccanico, ma per diciamo ricavarne stimoli per individuare meglio la specificità del caso italiano, se a questo fine non sarebbe opportuno tener conto un po' di più di quello che mi è sembrato si sia fatto stamattina degli studi in atto nelle storiografie straniere sul problema dell'aristocrazia e voglio dire sul problema anche del cosiddetto sistema patrizio. Per esempio, io anche per prepararmi un minimo a queste cose stavo riguardando l'opera sia di Goubert sia quella di Richer, a mio avviso particolarmente diciamo importante quest'ultimo. E se noi andiamo a vedere gli studi, i risultati degli studi sul problema, per esempio, appunto dell'aristocrazia, del funzionamento di questo sistema che è stato definito patrizio, noi ci rendiamo conto che, per esempio, per il caso francese, il richiamo al ruolo della razza è un richiamo fondamentale, ed è un richiamo non già perché corrisponda a una realtà precisa diversa dalla nostra, ma perché il dibattito sulla aristocrazia si collega a tutto un dibattito ideologico in Francia fra 5 e 7 sul problema delle due razze, sul problema latini-germani così via. Goubert arriva a dire che parlando per esempio del ruolo della nobiltà nella Francia di antico regime, cioè non si può prescindere anche da una, lui parla addirittura di definizione di questo tipo. Per esempio, sempre Goubert insiste molto sulla distinzione fra nobiltà vecchia e nobiltà, diciamo, nuova. Insiste molto sulle varie specificazioni. Ma credo che il punto interessante che io vorrei buttare lì per arricchire la discussione è quello che si viene da Richer, e cioè che il quale non usa neppure più il termine aristocrazia e il termine, voglio dire, sistema nobiliare, ma invita a usare la categoria del sistema dei notabili. Questo, secondo me, è un punto di riferimento molto importante, perché se noi, studiando le cose che si riferiscono all'Italia e all'Europa moderna, vogliamo, oltre che studiare determinate specificità, anche studiare cose di lungo periodo, la cosa di lungo periodo di fronte alla quale noi ci troviamo è il sistema dei notabili, che continua per tutto l'Ottocento e si affaccia addirittura a questo secolo. Ora, cosa vuol dire studiare, cioè tentare di analizzare il problema del funzionamento complessivo di quella che noi abbiamo sempre definito la società aristocratica attraverso il sistema dei notabili? Vuol dire dare un spazio maggiore di quello che noi non siamo soliti dare a problemi, per esempio, del prestigio sociale. Donati stamattina, secondo me, ha fatto una relazione molto stimolante, molto lucida, anche di estremo interesse. Però io credo che quando arriviamo al dibattito ossessivo sull'onore, quale svoltosi fra 1500, diciamo, e 1007, noi dobbiamo tentare di leggerlo anche come modo, come diciamo ricerca, come tentativo di risolvere questo problema del prestigio sociale che è decisivo per il funzionamento di un sistema dei notabili. Qualche altro ordine di considerazione. Io credo che dovrebbe essere maggiormente accentuata una serie di punti di riferimento che stamattina sono venuti fuori nelle relazioni. Per esempio, quello che è stato definito il sistema patrizio, il sistema aristocratico, insiste in un'area geografica ben precisa. E questo è già un primo condizionamento. Insiste in un'area che ha fatto l'esperienza dei comuni, è stato giustamente ricordato, con tutto quello che l'esperienza comunale ha significato sia per la democratizzazione, ma diciamo più in generale per il problema della laicizzazione del potere, della sua legittimazione e del suo esercizio. Per, voglio dire, l'introduzione di una serie di verifiche dal basso o da parte dei pari, per quanto riguarda il funzionamento dei centri di potere. Ma secondo me c'è un altro punto di riferimento che mi sembra che sia stato un po' abbandonato, ed è il legame col cosiddetto Stato moderno. Certo, qui dopo, nel momento giusto, stimoleremo Schiera a intervenire su queste cose, però io credo che non possa essere, che non possono essere scordate una serie di cose. Prima, che questo sistema aristocratico, nobiliare, patrizio, si verifica in una zona in cui i grandi stati che operano avendo qui la loro periferia. Quindi, voglio dire, sono zone di confine e, come sempre succede in questi casi, voglio dire, siamo di fronte a una dimensione particolarmente importante. Le zone di confine sono sempre state le zone un po' sperimentali da questo punto di vista. Secondo ordine di riferimento. In fondo, voglio dire, adesso non vorrei abbandonarmi ai miei studi specifici, ma noi in Italia lo Stato vero, quale per esempio si è realizzato in altri paesi, non l'abbiamo avuto per la presenza della Chiesa. Io stamattina guardavo le facce, come si dice, con fare culto, diciamo, i loro volti, mentre stava parlando il professor Prodi. È vero che, come sempre, ha saputo venderla molto bene col tono dimesso, che di per sé non è particolarmente esaltante. È vero che è stato l'ultimo a parlare, però, voglio dire, notavo un certo distacco, uso un eufemismo, nei loro volti a proposito di questo tipo di problemi. E questo per la profonda convinzione che la storia della Chiesa, soprattutto per un paese come noi, sia una cosa abbastanza così, no? Stravagante, da lasciare sostanzialmente a preti o diciamo con sacerdoti in difficoltà, ma senza grande rilievo per la storia complessiva del paese. L'opera di rimozione, per esempio a questo livello che è stato fatto nella storia d'Italia in Audi, è altamente, diciamo, secondo me, significativa. Ora, badate bene che il problema del ruolo della Chiesa e della sua storia nella società italiana non è il problema del ruolo della Chiesa per la salvezza delle anime. Per questo chi crede si affida al buon Dio ed è convinto che il buon Dio avrà il suo da fare. Il problema, invece, secondo me, è di altro tipo. E cioè, in fondo, la presenza della Chiesa, come si è visto da quell'accenno, secondo me, estremamente illuminante finale di Prodi, per esempio il ruolo del sistema dei benefici per quanto riguarda l'organizzazione del potere da noi, la presenza della Chiesa è decisiva per il funzionamento della società nel suo complesso nel nostro paese. Perché, voglio dire, passano di lì determinati modelli di legittimazione del potere, perché passano per quella via, a mio avviso, modelli anche per l'esercizio concreto del potere. Sono alla fine dei miei 10 minuti e chiudo. In sintesi, voglio dire questo. Io credo che sia importante, per tentare di capire come ha funzionato nel suo complesso la società del nostro paese fra 1500, diciamo, e 1700, sia importante tentare sì una storia, diciamo, globale, una storia, chiamiamola, sociale strutturale, ma una storia che non scordi alcune dimensioni precise, alcune dimensioni che riguardano l'organizzazione del potere, sia a livello di legittimazione come a livello di esercizio. Che non scordi una delle grandi specificità del caso italiano, che è la presenza della Chiesa da questo punto di vista, come fra l'altro una delle vie attraverso le quali a quel livello si è realizzata quella caratteristica fondamentale della società del nostro paese, cioè il carattere dualistico. In fondo, questo noi oggi lo notiamo dal punto di vista sociale, lo notiamo dal punto di vista economico, ma va notato anche dal punto di vista politico. Il nostro è un paese che non è arrivato a realizzare, diciamo, lo Stato unitario come Stato particolarmente accentrato, ed in grado di legittimarsi da solo contro tutto il resto della società, anche per la presenza della Chiesa. Quindi anche con questo, secondo me, dobbiamo misurarci. E avrei finito. Do quindi adesso la parola al professor Stuart Wolff. Spero di tenermi dentro i limiti stretti. Giusti? 10 più 5. Certo, se in inglese non lo rispetto. Appunto, sarebbe gravissimo. Sì. Dunque, a me sembrava di sentire dentro le relazioni di stamattina un po' implicito il concetto dell'aristocrazia in queste regioni dell'Italia di cui ci occupiamo come un corpo completamente autonomo che aveva il potere, che utilizzava quel potere, magari adottandosi i meccanismi di quello, e quindi che era responsabile dei cambiamenti che si erano sviluppati in Italia tra il 5 e il 700. E in parte, evidentemente, questo deve essere vero, però mi sembra soltanto in parte. E quel che vorrei cercare di suggerire è di ricollegare un po' questa aristocrazia all'interno della società italiana in questo periodo, per suggerire dove sono i limiti e perché è pericoloso, cioè, staccarlo troppo dalla società italiana stessa. Dunque, due punti preliminari, è molto semplice. È evidente che si ha la tendenza di studiare le famiglie che sono riuscite. E quando si studia l'aristocrazia, bisogna fare bene attenzione di non credere che l'aristocrazia sia semplicemente quelle famiglie grosse, grandi, potenti. È molto più di quello, e anzi, appena si propone quel problema lì, quel che viene fuori è che sotto le poche grandi famiglie c'è uno strato enorme, graduato in piramide, di famiglie di vari livelli di ricchezza e di vari livelli di efficacia, quindi, nella società stessa. E che non si può parlare dell'aristocrazia come un blocco, perché le differenze tra le povere famiglie di campagna che si trovano in Piemonte o nel Veneto o in Toscana, come si trovano in Francia, e le grandi famiglie, è talmente enorme che soltanto una cosa li tiene insieme, e quello è la coscienza nobiliare, il senso dello status, di essere nobili, che addirittura è sviluppato al punto che si usurpano i titoli di nobili senza diritto legittimo di averli a livello più basso, e quindi diventa una classe molto estensiva, e bisogna fare attenzione allora come si parla, di non parlare troppo come blocco. Secondo punto, che non svilupperò, che mi sembra che se si parla dell'Italia centro-settentrionale bisogna fare una distinzione anche, o tenere sempre in mente la distinzione tra l'aristocrazia urbana cittadina, patrizia in senso stretto, e quella feudataria. E che mi sembra che ci siano delle differenze notevoli, almeno fino al 600 avanzato, tra questa nobiltà di origine mercantile tipo genovese e veneziano e quello tipo toscano, non fiorentino, ma toscano, per esempio, o piemontese. E quello andrebbe sviluppato, ma non lo faccio qui. Due punti però centrali. Se non consideriamo l'aristocrazia come un corpo autonomo, come il motore che produce i cambiamenti in Italia, ma se invece guardiamo i cambiamenti economico-sociali in Italia tra 5 e 700, quel che si verifica, e credo che ormai sia accettato generalmente, è un processo di crisi, di grandi crisi, dalla situazione dell'Italia centro-settentrionale, come grande città industriale, ha un processo di proto-industrializzazione, quel che ormai viene chiamato proto-industrializzazione, dove si produce i prodotti di lusso e dove c'è un ritorno alla terra, che permette all'aristocrazia di esercitare di più il suo potere, di cui quindi l'aristocrazia non è il motore, ma il beneficiario, che magari accentua questo processo, ma che si trova in mezzo a questo processo. E cioè che la trasformazione o il rafforzamento del potere economico dell'aristocrazia di queste regioni è a sua volta il riflesso della grande crisi creata da cause esogene all'Italia in gran parte, come pure il processo del pauperismo che aumentò nel corso del 605 e 700. Sono due aspetti di una stessa crisi. Secondo punto, avevo l'impressione, dal discorso di Angiolini in particolare, che lui pensasse o discutesse in termini delle basi economiche della nobiltà, in termini quasi di massimizzare il profitto. E qui di nuovo vorrei suggerire l'alternativa. Siamo, è un parallelo, il parallelo è questo. Siamo, credo, ormai cominciamo a essere abituati a pensare, a discutere, di rifiutare il discorso della massimizzazione del profitto come il concetto della società dell'ancien regime in generale. E quello è un concetto che abbiamo ereditato dalla vittoria della borghesia e che applichiamo in modo molto crudo, rozzo, a tutte le altre gli altri strati della società. Siamo abituati o cominciamo a pensare, per esempio, in termini dell'economia dei contadini, non con un'economia che cerca di massimizzare il profitto, ma di massimizzare la produzione per raggiungere quello stato di equilibrio di autosufficienza, seguendo le tracce di Chayanov, che rimane sempre alla base di questo. Io suggerirei che, parallelo a questo, bisognerebbe pensare all'altro estremo dell'economia aristocratica, anche come una economia che non cerca, con escluso certi casi, a massimizzare il profitto, ma che ha un suo meccanismo interno che è basato su tre punti. Primo, l'eredità dei patrimoni. Già chiaro nel 500 che si rafforza con tutti i sistemi di maioraschi di fedi commessi nel 600-700. Secondo, le doti. Le doti che sono il punto centrale dell'economia di qualsiasi famiglia nobiliare, sia come spesa, sia come aumento del patrimonio. Terzo, il mantenimento di uno stato, un status sociale adeguato al livello ritenuto da sé da parte di quella famiglia, infatti quella famiglia a qualsiasi livello di ricchezza che sia. Cioè, sono tutti ragionamenti interni alla famiglia che non riguardano direttamente il mercato, ma che hanno poi effetti profondi sullo sviluppo a lungo andare dell'economia italiana. Non voglio negare l'esistenza di certe famiglie, grandi famiglie, quelli romani sono stati citati, è il caso più famoso, che in effetti cambiano il tipo di economia o il tipo di produzione per il mercato, che utilizzano per esempio le greggi per l'esportazione o per il mercato o per l'approvvigionamento di cereali per le città. Sempre di più, direi, nel 600 e poi nel 700. Però mi sembra che questi sono eccezionali e che per la maggior parte delle famiglie aristocratiche non è il concetto del profitto per sé, ma il raggiungere un reddito adeguato per coprire le spese immediate in corso e le spese per spese capitali, cioè per le doti soprattutto. Quali sono le implicazioni per l'economia? Sono implicazioni che cambiano lungo i secoli. Se si guardano gli investimenti fuori, per esempio, fuori la terra, perché una famiglia nobile mette i soldi nei censi, che non sono stati neanche accennati finora, però che rappresentano la forma di credito più comune e usuale dell'Italia, credo, nel 5-6 e 700 ancora, o nei luoghi di monti, non monti di pietà, che sono così separati, credo, se Mangiolini se mi permette, monti P, cioè i monti comuni o il debito pubblico, che è tutta un'altra cosa che i monti di pietà. Perché mettono i soldi lì? Mettono i soldi lì come investimenti, come accumulazioni di capitale per poter pagare la dote nel futuro. La dote che si sa che si dovrà pagare quando la figlia maggiore si sposa. Evidentemente questo ha delle implicazioni a lungo andare sul processo di accumulazione di capitale, dei capitali in Italia. E bisognerebbe guardarlo sotto quell'angolo, cioè sotto gli effetti indiretti sui processi a lungo andare dell'economia, piuttosto che direttamente piuttosto che spiegare i cambiamenti dell'economia attraverso un voluto tipo di investimento, scelte di investimenti alternativi. O è l'altro estremo, e qui credo che sto arrivando alla fine, un altro estremo, i diritti feudali, che vengono equiparati spesso con la reazione signorile, che è un discorso lungo e complesso che non faccio qui. Vorrei soltanto suggerire che si tende, storiograficamente si è accettato, che si parla, per bene o male, di una reazione feudale della seconda metà del tardi Settecento. Però già Mark Bloch, molti anni fa, aveva fatto notare che c'è lo stesso tipo di azioni in tutto il Seicento, in certe zone della Francia. Io li avevo poi trovati in Piemonte nel Seicento, così via. E ho l'impressione che, di nuovo, si trova non una mentalità borghese che spiega perché si cerca di fare una reazione signorile, bensì un tentativo da parte delle famiglie più piccole di esigere più soldi possibile per coprire le proprie spese, che è tutto un altro tipo di discorso e che quindi che è altrettanto valido in un periodo precedente alla seconda metà del Settecento. C'è un pericolo di opporre due astrazioni. da una parte il concetto di una nobiltà preso in blocco, condannato come sprecone, che usi i soldi come soltanto per grandi consumi e che non si presta allo sviluppo del mercato o attività mercantili o meno che mai industriali, da una parte, e con l'altra parte una borghesia e la mentalità di questa borghesia che a un certo punto non si sa molto bene perché quando entra nell'aristocrazia, per esempio nella reazione feudale del tardo Settecento, cambia la mentalità di questa aristocrazia e lo fa diventare molto più orientato verso il mercato. Credo che bisogna fare molta attenzione. È evidente che i cambiamenti sono, che i cambiamenti verso il tardo Settecento, in generale, largamente, sono notevoli, di modo che la mentalità mercantilistica o del mercato o borghese, quel che si vuole chiamarlo, è già talmente diffusa che si capisce di più perché questa aristocrazia a quel punto comincia già a utilizzare e sfruttare i mercati più sistematicamente di prima. Però contro quello c'è un grande pericolo perché l'uso della terra, lo sfruttamento della terra, magari non dipende affatto di una mentalità borghese o altro, ma semplicemente dalle possibilità obiettive, che vuol dire dalla presenza, dalla pressione della popolazione demografica sulla terra, e che varrebbe la pena indagare, per esempio, fino a che punto si verificano questi tentativi di sfruttare di più i terreni dove la pressione demografica è più forte, mentre invece dove la pressione demografica è molto più limitata, dove c'è scarsità di mano d'opera, come per esempio in Sicilia nel 600, non si fa affatto questo tipo di sfruttamento signorile aristocratico, bensì si cerca di offrire i termini patti più favorevoli ai contadini per attrarli, penso ai villaggi feudali della Sicilia, nuovi villaggi feudali della Sicilia del 600, fuori nostra zona, ma siamo lì. Cioè, se si comincia a parlare in termini di come coprire le spese dal punto di vista della famiglia e poi delle possibilità inerenti alla situazione della regione e dell'economia stessa di far rendere di più senza pensare a massimizzare i profitti, forse attraverso quel modo lì arriviamo a concepire più obiettivamente questo concetto di cos'è questo potere economico dell'aristocrazia lungo questi secoli e come cambia lungo questi secoli. C'ho il momento per l'ultimo punto, che è completamente separato, è sul potere politico dell'aristocrazia. Donati ha parlato in modo molto interessante di questo mito o mentalità cavalleresco-militare. Varrebbe la pena, mi sembra, di considerarlo in termini degli effetti che ha, o di riflessi, rapporti che ha, con la crescita dello Stato assolutista. C'è un contrasto tra la creazione di uno Stato assolutista che è nazionale, entro confini nazionali, e la sopravvivenza di questa coscienza, mito, non importa la parola, del militarismo feudale che è internazionale, che permette, e anzi spesso incoraggia, il figlio cadetto o il figlio maggiore, qualche volta, di andare a servire come ufficiali negli eserciti di altri paesi, per arrivare al punto di combattere contro i propri paesi in qualche occasione. Questo è molto comune nel 500 e anche fin dentro il 600. Gli eserciti spagnoli e poi quelli austriaci fino dentro il 700 sono evidentemente gli esempi più famosi di questo. Io ho l'impressione che come valvola di sicurezza del cosa fare di una nobiltà non ancora soggetta al potere assoluto, funzionava grosso modo che quando queste valvole di sicurezza si bloccavano, per esempio, dopo il 648 o in quel periodo più breve, tardi 500, primo 600, come per esempio tutti questi nobili tornavano in Francia o del resto dopo la liberazione dell'Olanda, l'indipendenza dell'Olanda in Olanda, c'erano proprio questi nobili che erano lì, che poi cominciavano a creare problemi per il potere assoluto localmente, varrebbe la pena indagare qui in Italia, dove prende forme non tanto di ribellione politica come le guerre religiose in Francia, ma di banditismo, cioè i limiti del potere, uno dei limiti del potere dello Stato assolutista, che rimane fin ben dentro il 600, soprattutto nelle zone periferiche, Bergamasco per esempio, una delle zone famose, dove il potere feudale, come potere politico, rimane molto accentuato. E mi sa tanto, non so, mi sa tanto, vale la pena chiedersi se non c'è rapporto, e l'unico modo sarebbe andare proprio a guardare chi sono queste famiglie, cosa facevano prima queste famiglie, mandarmi i figli fuori a combattere negli eserciti o no, no, per capire se non c'è una specie di fasamento che si incontra tra una parte e l'altra, cioè finita la possibilità di guerra all'estero, si torna all'interno, ma si mantiene la stessa tradizione, ma tradizione militaresco, cavalleresco feudale, contro stavolta il potere dello Stato. Grazie. Ringraziamo il professor Sporbu, che ci ha ricordato, credo, due cose di notevole rilievo. Il primo è il problema della specificità di questa economia aristocratica e di questo potere economico aristocratico, e il secondo punto, che nella relazione di questa mattina è rimasto un po' in ombra, è il discorso in fondo delle famiglie. Forse è stata un'opera di rimozione stavolta non nei confronti di una vicenda secolare, ma nei confronti più banalmente del numero di quaderni storici dedicato alla famiglia. Però credo che sia abbastanza importante, secondo me, tenere presente il ruolo centrale dell'organizzazione familiare anche, per esempio, per quanto riguarda, ancora una volta, l'amministrazione del potere politico ed amministrativo, e cioè il modello dell'amministrazione della casa, che è abbastanza collegato, diciamo, a una società aristocratica e una società a dominio aristocratico. Detto questo, diamo la parola alla signora Fasano. Inciso, mi complimento con il professor Sporbu, perché un momentino, diciamo, sollecitato, è stato favolosamente dentro i 15 minuti. Dunque, io mi riferirò essenzialmente, e perlomeno come punto di partenza, alla relazione del professor Mozzarelli sulla nobiltà e potere politico, innanzitutto perché questo il terreno su cui io stessa mi sono mossa e mi muovo nelle ricerche attinenti a questi temi. Ecco, direi che ho apprezzato molto, mi sembra importante, l'osservazione introduttiva a proposito dell'esigenza di superare per i secoli 500-600 e anche di prima metà del 700 il concetto di decadenza per la storia d'Italia, che così ne fa un tutto unico e in sostanza impedisce di studiarne poi lo sviluppo interno e le forme di articolazione storica interna. Direi che questo è un problema più aperto forse di quanto non apparisse dalla relazione, cioè non è che siano cose scontate. Ancora adesso si parla molto comunemente in fondo di una crisi italiana 5-600esca come tratto unico, appunto allora caratterizzato in blocco dalla cristallizzazione delle forze sociali e dal dominio del ceto patrizio proprio come espressione di questa cristallizzazione delle forze sociali, quindi anche terrierizzazione, rifeudalizzazione, tutti come termini che in blocco servono a definire dei processi che viceversa stamattina abbiamo visto analizzati in modo molto più articolato. In questo senso mi è parsa anche molto interessante, ricca di spunti, la relazione di Angiolini, proprio perché ci poneva il problema di andare al di là di una visione di questo tipo e viceversa di studiare le articolazioni degli sviluppi dell'economia, in questo caso, che si constatano attraverso la storia dei patrimoni familiari, e anche il richiamo al problema del mercato mi sembrava che avesse proprio questo senso, innanzitutto, cioè il senso di riportarci anche ad altri elementi dello sviluppo economico di questi secoli. Un altro aspetto che mi pare molto positivo nella relazione del professor Mozzarelli è l'accentuazione, il sottolineare l'importanza dell'aspetto funzionale del patriziato. Ecco, qui però mi sembra che nascano dei problemi. Cioè, mi sembra che una volta che si porta l'attenzione sul funzionamento, è veramente necessario andare oltre le forme istituzionali e considerare la pratica dell'esercizio del potere. Voglio intanto porre una domanda che in fondo è già stata posta anche da Stuart Wolf, anzi c'è già stata una risposta nell'intervento di Stuart Wolf, cioè il patriziato è realmente una realtà omogenea. Ora, io ho l'impressione, per esempio proprio facendo riferimento al caso milanese, per il poco che io ho conoscenza del caso milanese, che nasca sì forse come risposta in termini di omogeneità sociale ad una crisi di una precedente realtà nobiliare nello Stato di Milano. Cioè io ho presente per esempio dei censimenti milanesi della metà del Cinquecento in cui tornano molto spesso i gentiluomini poveri. Questi gentiluomini poveri sono evidentemente qualcosa, cioè rappresentano probabilmente uno stato di crisi reale della precedente nobiltà. In Milano naturalmente è noto, la nobiltà è una vecchia cosa, si intreccia tutta il sorgere dello stato signorile, eccetera. E allora sì, il patriziato può essere una risposta in termini di omogeneità, una risposta in termini di omogeneità che allora però non implica solo e forse non principalmente delle assunzioni, ma delle esclusioni anche. Cioè non è solo il problema di come si entri nel patriziato, è anche, perlomeno nella prima metà del Cinquecento, come si esce dalla precedente classe di dirigente, come se ne esclusi chi resta e chi esce, mi sembra. Ecco, però resta una realtà omogenea, si può considerare una realtà omogenea nel periodo, in tutto l'arco di tempo considerato? E io direi veramente di no. Stuart Wolf ha parlato appunto di nobiltà ricca e nobiltà povera, ha detto come le grandi famiglie siano in realtà la punta dell'iceberg e sotto ci sia altro anche. E naturalmente anche dal Baker, per esempio, su Siena sappiamo queste cose, no? Esiste una nobiltà povera che è veramente affamata di uffici, che ha bisogno di ben poco, di appoggiarsi anche allora sì al sistema di potere per altre ragioni, cioè per campare anche. E poi sono altre cose, grandi su Genova, anche lì c'è la nobiltà ricca, c'è la nobiltà povera, no? Esistono altre differenziazioni, cioè dalla relazione di Donati stamattina veniva fuori, ed era molto interessante secondo me, il fatto che tutto il dibattito sulla nobiltà nel corso del Cinquecento trova forse, diceva lui e la lasciava come ipotesi, la spiegazione di alcune delle sue articolazioni proprio nell'esistenza di una vecchia e di una nuova nobiltà, cioè di forze che sono diverse, eccetera, diverse per origine, diverse per esito. Ecco, allora, secondo me però bisogna porsi alcune domande a partire da questa constatazione e chiedersi se rispetto a questa quale peso e quale senso abbiano le nuove accessioni alla nobiltà rispetto a questa realtà eterogenea. In Marrara, quando parla della situazione senese, se non sbaglio, e mi pare che debba essere così perché sennò non capirei il sistema, parla dell'accesso a livello di cittadini di reggimento, cioè quello che si diventa pagando la somma che poi è esorbitante, eccetera. Ecco, però a Siena un conto è essere cittadini di reggimento, un conto è essere risieduti, cioè quelli che poi entrano in circolo, eccetera, eccetera, sono i risieduti, non sono i cittadini di reggimento. Io prendo un altro caso toscano perché faccio un riferimento a mie esperienze personali. A Pisa la cosa è ancora più clamorosa, cioè a Pisa si diventa cittadini semplicemente e teoricamente in base agli statuti di Pisa essere cittadini vuol dire avere accesso a tutti gli uffici. Non c'è mai stata, cioè, quella istituzionalizzazione che altrove ha avuto luogo, che è il patriziato poi istituzionalizzato. Il caso di Pisa non è solo pisano ma è genericamente un caso toscano, cioè in Toscana il patriziato non è istituzionalizzato nel corso del Cinquecento e neanche del Seicento. Ecco, si diventa cittadini, anche a Pisa si paga, poco in questo caso, però si paga. I cittadini ci sono le nuove accessioni, eccetera. I nuovi, per quello che ho visto io attraverso una ricerca che ho in corso, però tra quelli che entrano nella cittadinanza pisana non si trovano poi dei priori. Cioè c'è uno sbarramento ad altro livello, ed è uno sbarramento che funziona. Cioè i priori pisani, quelli che hanno in mano allora gli organi comunitativi, eccetera, e che hanno in mano anche alcune delle leve di potere economico a cui faceva riferimento Angiolini stamattina, per esempio non solo il Monte di Pietà ma anche grosse confraternite laiche oppure la Casa della Misericordia, gli ospedali, queste cose. Beh, questi non sono in generale, vabbè, nel caso pisano non direi il patriziato, ma non sono comunque questa vasta classe. sono una parte di questa vasta classe. E allora più in generale penso per esempio alla dialettica che secondo Cozzi ha caratterizzato diversi momenti della storia veneziana tra aristocrazia e oligarchia. Ed ho l'impressione che veramente questa sia una cosa importante, cioè quando noi parliamo di patriziato dobbiamo un po' sapere di cosa parliamo e se parliamo cioè di aristocrazia in senso più generale oppure se parliamo di oligarchia. Io ho l'impressione che qui stamattina in parte si sia fatta una cosa, in parte l'altra. Ho l'impressione che il problema più grosso sia quello dell'oligarchia, cioè appunto della realtà di potere e non delle forme giuridiche e istituzionali in generale. E allora ho l'impressione che parlare di mobilità sociale o di cristallizzazione, di nuove accessioni, di depauperamento anche, perché ancora una volta se ne esce, non solo si entra ma se ne esce, va fatto a proposito di questo, cioè delle grosse famiglie che hanno realmente un potere, allora bisogna chiedersi che potere è, qual è il loro fondamento, eccetera. Chiedersi allora quali sono i modi e strumenti di potere a questo livello. In Toscana io queste grosse famiglie le ritrovo con un potere reale, per esempio non solo in città, grosse famiglie cittadine, ma anche nelle comunità rurali. Per esempio nelle comunità rurali del contado Pisano, che è una delle grosse zone di sviluppo in Toscana nel 600, si ha una trasformazione delle istituzioni delle comunità rurali che è molto significativa. Cioè nel corso del 600 a un certo punto compaiono nelle comunità rurali delle figure nuove di sovrintendenti che hanno in mano di fatto tutta l'amministrazione delle comunità. E sono chi? Sono le persone che non sono qualificate come nobili e non entrano come nobili a questo titolo nelle amministrazioni delle comunità rurali, ma sono i massimi estimati locali e sono sempre però di fatto o fiorentini, in questo caso rappresentati dal fattore, oppure cittadini pisani, grossi cittadini pisani o grossi cittadini fiorentini, cioè membri non di un'aristocrazia generica ma realmente di un'oligarchia che ha un peso reale, eccetera. Sono gli stessi, per esempio, che ritrovo, e qui vengo alla relazione professor Prodi, che non so che faccia avessi io, ma ho sentito con molto interesse invece, sono gli stessi che si ritrovano a livello di patronato. Un patronato che, almeno per la Toscana, ma penso sarà un caso generale, non riguarda solo i vecchi benefici. Cioè non si tratta solo della sostituzione dei patroni, del diritto di patronato il patronato cittadino, dei patrizi cittadini all'elezione delle comunità riguardo ai vecchi benefici. E questa è già una cosa molto interessante perché, almeno sempre nella zona che io conosco, avviene soprattutto là dove si diffonde la grande proprietà cittadina, cioè per esempio molto più nella pianura pisana che sulle colline, cioè probabilmente sono cose correlate. Ma patronato che si esercita anche, per esempio, a livello della creazione di nuovi benefici, cioè i benefici più ricchi nel contado pisano alla fine del 600. Mi spiace, faccio della storia locale, ma penso di porre anche problemi abbastanza, forse più vasti della storia locale. I benefici più ricchi non sono tanto le chiese curate, quanto le cappelle e cappello o commende, cioè benefici che vengono creati dalle stesse case patrizie e poi vengono attribuiti a livello di patronato. Ecco, io ho l'impressione, e con ciò concludo, che in sostanza anche Angiolini, quando faceva la storia della nobiltà riguardo ai processi di produzione, parlava di questa nobiltà, cioè delle grosse famiglie, e delle grosse famiglie, non della nobiltà più generale, che dobbiamo ben tenere presente, però esiste, e che realmente ecco, è logico che a livello di grosse famiglie veramente tutta la storia dell'economia, dello sviluppo dell'economia agricola si rifletta anche nello stesso svolgimento e sviluppo dei patrimoni nobiliari. Voglio dire, però non se ne può andare perché... No, voglio fare solo una brevissima osservazione, tanto per nome. Sì. Il nome è Stumpo. Stumpo. Cioè, mi sembra che ci sia però una leggerissima contraddizione tra l'inizio e la fine di questo intervento, perché si era partiti dicendo appunto che l'aristocrazia non è solo le grandi famiglie, il patriziato non è solo le grandi famiglie, ma bisogna appunto studiare anche tutto l'insieme, che mi sembra sia un po' quello che ha fatto l'introduzione Mozzarelli. cioè ha parlato di patriziato, oligarchia, a me sembra che il nome cambi, però le cose restano uguali, cioè che la chiusura ci sia all'inizio, cioè alla base, cioè dall'accesso alla cittadinanza, oppure ci sia dopo, però rimane sempre appunto nel complesso di un stretto numero di persone. E poi alla fine si è tornati a dire che bisogna studiare appunto queste grandi famiglie, che tutti questi fattori erano sempre delle grandi, c'è cioè un parte sempre di grandi famiglie. Mi sembra che sia una... Allora torniamo appunto al punto di prima, no? Non lo so, mi sembra. Ma secondo me bisogna semplicemente sapere cosa si sta studiando. Cioè, secondo me sono due oggetti che vanno bene, però vanno distinti e bisogna sapere che quando si studia l'aristocrazia non necessariamente si studia famiglie che hanno il potere, che hanno grossi patrimoni, quando si studiano famiglie che hanno il potere e grossi patrimoni non si studia tutta l'aristocrazia. Bene, ringraziamo la signora e... Credo che venga da questo intervento un invito in fondo centrale anche per lo svolgimento dei nostri lavori, ed è il problema di un approfondimento dei punti di riferimento e dei termini che vengono usati, che ritengo veramente decisivo. In fondo questo richiamo al problema dell'oligarchia, al suo ruolo e al suo funzionamento, secondo me è un richiamo realmente decisivo, anche perché credo che se noi ci vogliamo porre ancora una volta il problema dell'organizzazione del potere, ricorrendo al discorso del sistema oligarchico, noi abbiamo la reale alternativa, una delle reali alternative, per esempio, rispetto allo Stato moderno, così come noi lo conosciamo in altre esperienze, perché una delle caratteristiche dell'ordinamento oligarchico è il prevalere, per esempio, del momento pattizio rispetto al momento della imposizione. E questo, secondo me, è un fatto di particolare rilievo. Adesso la parola al professor Bertelli. Dunque, anch'io alcune osservazioni, come dicevo, sparse, di cui però molto già mi ha anticipato l'amica Elena. Prima osservazione, direi che si debba fare una distinzione ancora maggiore di quella che è stata fatta questa mattina nella divisione geografica. Quando parliamo di un sud, che io sono d'accordo per classificare in maniera unitaria in quanto regno di Napoli e di Sicilia, ma non sono più d'accordo quando poi parliamo invece di un centro-nord in maniera compatta, perché senza dubbio non solo il Piemonte ma le Romagne presentano posizioni di feudalità completamente diverse da quello che sono invece la Toscana e ancora e l'Umbria, o ancora diverse da quello che sono l'Umbria e la Toscana rispetto al milanese. Questo devo dirlo subito, perché naturalmente, a parte poi l'ampiezza cronologica che mi sembra troppo vasta anche questa, per cui ci ritroviamo poi di nuovo a dover riscavare o ignorare che ci sono precedenti, come dirò più avanti, che invece appunto si ignorano e che sfalsano poi il giudizio storico in sede di ricerca sul patriziato, ma soprattutto perché appunto noi non abbiamo ancora chiarito di che cosa si sta parlando. Cioè, se parliamo di patriziato, di nobiltà feudale, di aristocrazia, di nuovo il discorso poi oligarchie e rispetto ad esse il ceto emergente o comunque il ceto che io direi la base politica della città-stato, non oltre che questo, dico, non tanto patriziato, non tanto aristocrazia, quanto base politica avente diritti civili, mentre tutto il resto degli abitanti della città, appunto evitando gli errori di un Piren, sono gli abitatores ma non sono assolutamente cittadini della città, non hanno i diritti politici. Naturalmente la base politica è una cosa, il vertice è un'altra, allora forse il discorso comincia a diventare più chiaro. Ma forse la difficoltà per cui non riusciamo a staccarci dal problema patriziato nobiltà feudale, forse ancora a monte, è il fatto che il patriziato non è affatto una borghesia cittadina, perché all'interno del patriziato cittadino esistono i feudatari di campagna che hanno lasciato la campagna per venire ad abitare in città, dove, voi sapete benissimo, nel Medioevo costruiscono le loro case torre e, a parte questo, influenzano con un loro modus di vita, influenzano il costume e quindi danno anche il tono a quegli ufficiali, vicari, notai della Curia Vescovile o della Curia Comitale che assieme a loro hanno preso il potere. Quindi ecco che anche qui dico è abbastanza difficile, o comunque sono mine vaganti, un discorso che divida nettamente, come invece mi sembrava che volesse fare Stuart Wolf, la campagna dalla città. In realtà anche qui dico il cittadino in villa è il signore che ha la stessa posizione, lo stesso stile di vita del feudatario, come il feudatario dalla campagna ha lo stesso tenore di vita quando è in città. Gli statuti comunali obbligavano addirittura il feudatario sottomesso o comunque alleato alla città a vivere, a risiedere in città almeno 2 mesi in tempo di pace per un periodo molto più lungo in tempo di guerra. Quindi ecco che di nuovo patriziato e nobiltà feudale si fondono e non sono poi tanto distinguibili come stile di vita, come diciamo così Weltanschauung. Ecco, io concordo pienamente con Elena Fasano quando, anzi direi che vorrei sottolinearlo ancora di più, quando si dice che nobiltà non è un concetto classe, ma è un concetto etico. E infatti basta che noi prendiamo ad esempio in Heirs, il clan, quel bellissimo diagramma che lui ha fatto su Idoria, e noi vediamo come dal Doge, che possiede 2600 luoghi di monte, poi anche qui spiegherò più esattamente che cos'è il monte, a l'ultimo Doria, che possiede soltanto 60 luoghi di monte, non per questo essi non sono tutti della famiglia Doria, ma evidentemente le differenze all'interno della famiglia sono enormi. Ma dirò di più, il Trexler ha abbastanza bene dimostrato il significato di pauperes verecundi all'interno di questa società, cioè come il nobile vergognoso, il nobile povero vergognoso, non sia soltanto perché nobile, sempre nobile anche se povero, ma sia materialmente assistito da una omertà di casta che viene mantenuta al vertice dello Stato. C'è una relazione di Bellmar molto bella sulla povertà, cioè sulla nobiltà veneziana e la nobiltà ricca al potere e la nobiltà povera, e dalla relazione perché è bella? Perché viene fuori questo dramma del nobile che deve per forza aiutare delle fanciulle che, nate nobili, non riescono nemmeno ad alzarsi dal letto perché non hanno di che vestirsi. Il dramma quindi non è per il fatto che queste donne sono delle donne povere, ma il fatto che sono delle nobili povere, il che cambia completamente. Ma, e qui entriamo nel problema delle istituzioni, il discorso del nobile povero diventa qualcosa di molto più grosso quando noi entriamo, adesso salto un momento dal mio schema, ma bisogna che lo faccia visto che mi è rientrato dentro, quando noi rientriamo nel problema dell'assistenza. L'assistenza è chiaro che investe il problema ecclesiastico. Cioè in che modo? È la nobiltà, il patriziato, l'oligarchia, adesso come vogliamo chiamarlo, che attraverso il possesso, e qui mi dispiace ma Prodi non ha detto nulla da questo punto di vista, che invece secondo me è il punto centrale per capire il rapporto, non di storia della Chiesa, ma il rapporto tra patriziato e Chiesa, e anzi direi non è della Chiesa come diceva Ruffilli, ma le Chiese locali, cioè il discorso è secondo me tra il capitolo della cattedrale, il vicario che spesso esiste del vescovo e che è in sede locale, e il vescovo che è il titolare, che non risiede mai in sede perché sta a Roma, perché sta vicino alla corte romana, e quindi il discorso è nelle lotte continue che i documenti notarili e giudiziali ci attestano, i ricorsi a Roma ci attestano, tra un capitolo che gestisce il potere all'interno della città e un vescovo che non risiede in città e che non gestisce questo potere. Ma appunto attraverso il capitolo noi abbiamo anche il controllo di tutta l'assistenza. E attraverso il controllo dell'assistenza noi vediamo per esempio le cedole pagate ai vari poveri e come il povero vergognoso riceva un sussidio che è sempre comunque il doppio del sussidio che riceve il povero proletario, cioè il miserabile normale. Allora evidentemente il possesso non è soltanto dei benefici, ma il possesso del capitolo per l'aristocrazia cittadina diventa anche il possesso, lo strumento per il controllo della stessa casta all'interno della quale esistono variati livelli di censo. Ci siamo, sì, io sto correndo cercando di poter dire tutto più rapidamente che posso. Ecco, una cosa che non si è parlato, per esempio, è il problema, sia appena accennato, ma dico, è il problema delle strutture di governo, le istituzioni e le strutture di governo. Come questi gruppi reggevano il potere e come riuscivano a perpetuare il loro potere. Ecco, dico, anche qui, per esempio, dobbiamo cominciare a chiarire se ci troviamo di fronte a delle strutture politiche o politiche, no? Perché, dico, anche qui, per esempio, un esempio subito, tanto per chiarire le idee, quello che voglio dire, è se noi prendiamo Genova, noi ci accorgiamo che nel Banco di San Giorgio, dal Banco di San Giorgio è esclusa la nobiltà di Riviera, sia di Levante che di Ponente. Chi è che possiede il Banco di San Giorgio, utilizzando tra l'altro le stesse strutture che troviamo nel comune, cioè strutture non niente affatto democratiche ma di chiusura oligarchica di vertice? Bene, troviamo soltanto il patriziato di città. Ecco, allora questo che cosa significa? Che mentre la nobiltà di Riviera partecipava del governo di Genova, non partecipava invece del governo di San Giorgio. Il che vuol dire quindi che abbiamo strutture politiche all'interno di questa più grande struttura dello Stato, anzi che non abbiamo uno Stato ma che abbiamo più strutture statali all'interno di un unico regime territoriale, e che quindi anche qui si formano diverse aristocrazie, diverse oligarchie che non sempre sono in accordo tra di loro. Il che naturalmente provoca il problema di quando l'accordo non si verifica, la spaccatura come avviene, in che tipo di allora io credo di aver già finito, allora non posso andare avanti, io volevo dunque di che tipo naturalmente di rottura abbiamo davanti. Detto questo, tornando ancora a quello che anticipava l'amica Elena, direi ancora un'altra cosa, cioè che perfettamente d'accordo sul, e questo lo diceva anche Stuart Wolf, sulla coscienza nobiliare come status. Direi anche che già qui c'era Mozzarelli aveva parlato di governi centrali che intervengono per impedire le serrate. Ora dico, a me questo non mi consta, perché tra l'altro basta pigliare Ventura, Venezia, la prima cosa che fa ogni volta che allarga il proprio potere in terraferma è di ridurre i consigli cittadini. Ecco, dico, questo fatto mi pare che sia una chiusura. Quindi non capisco come lui possa dire che i governi centrali invece non favoriscono le chiusure. Mi pare invece che i governi centrali riportino in periferia la stessa struttura che loro hanno al centro. Ma direi che così, per esempio, perfino il momento democratico per eccellenza, no? Il momento savonaroliano per Piagnone di Firenze, secondo me invece è un momento di chiusura oligarchica e di blocco. Se voi pensate che i cittadini fiorentini vengono divisi in due categorie, i scives, che non hanno diritto di accesso ai consigli, e i beneficiati invece che hanno diritto di accesso ai consigli, qui abbiamo addirittura tre stratificazioni: i cives, che pagano le tasse ma che hanno pochissimi diritti civili, i beneficiati che hanno il diritto di accesso al consiglio ma soltanto ogni 6 mesi, quindi per 1 anno e mezzo poi lo perdono, quindi vedete che anche qui abbiamo una struttura politica molto diversa e diversificata dai tempi moderni, e poi l'oligarchia vera e propria, che è invece quella che risiede all'interno delle magistrature. Questo è un discorso lungo che va fatto, ma direi, e chiudo, direi che a questo punto viene fuori un altro problema. Cioè che abbiamo avuto, come si entra, come si esce, diceva la Fasano, da questo involucro. Bene, ma allora a questo punto è un involucro. È un involucro nel quale, tra l'altro, si entra e si esce non tanto per cooptazione, che è un fatto eccezionale, quindi non è la norma, non possiamo prenderlo in considerazione, ma se ne entra, come diceva Maranini, solo attraverso, per Venezia, solo attraverso il diritto matrimoniale in linea femminile. È solo questo il modo, o se volete ancora per restare a Venezia, il broglio. Cioè la possibilità per il nuovo ricco, il favorito, di partecipare alla vita politica come? Corrompendo il nobile povero, ma che ha diritto di accesso al consiglio, il broglio, no? Ma a parte questo, e la maniera, la via grande maestra per entrare è il matrimonio della figlia con il rampollo nobile, finanziando e rinsanguando di nuovo il patrimonio nobiliare, ma nello stesso tempo sapendo, abbiamo dei tempi lunghi, non sono i tempi della nostra rivoluzione tecnologica di oggi, sapendo che nella seconda generazione anche la propria famiglia avrà accesso, nei suoi nipoti, avrà accesso al potere politico, alla nobiltà. Ma allora, e concludo, allora permettetemi di spezzare una lancia su la metodologia nemieristica di analizzare il gruppo oligarchico, perché a questo punto è chiaro che noi dobbiamo riuscire ad avere tot biografie del gruppo oligarchico, tot fotografie alla memoria di quello che è il gruppo politico che dirige in quel momento lo Stato cittadino. Ci sono delle richieste, Sì, ho dimenticato il coso dei punti, vabbè, mi sono... Sì. Punto, che sarebbe questo punto tra differenti, distinzione tra patriziano cittadino e di campagna, sì. Rurale, e cioè che, mentre sarebbe già decisivo se nella prima metà 500 siano le stesse cose, e avremmo utile riserve su quello, quando pensava, invece, il 700 un altro discorso, certo. Bisogna fare l'articolazione cronologica qui. Quello che a cui stavo pensando quando avevo detto di fare le fissioni è che sia dal punto di vista dell'interno dell'economia interna della famiglia, sia dal punto di vista degli effetti sull'economia generale della società, c'era mezza differenza, mi sembra, tra il problema dei patriziati mercantili delle grandi città tipo Venezia e Genova, che muovono verso la terra con delle risorse mercantili dietro, e un problema invece delle zone dove ci sono feudatari che hanno già la terra ma non hanno quelle risorse mercantili dietro. E dire che sono tutte e due le stesse cose è fare della confusione. No, vabbè, c'è anche una richiesta, dopo magari sì. Diamo la possibilità di fare tutte e due. Io ora a Bertelli, poi ti approfitto per dire una cosa alla Fasana. No, Ventura, d'accordo, ma io adesso vuol dire chiudere, per me chiudere vuol dire che non entra più nessuno. Ora che questi vengano ristretti, probabilmente tra l'altro era una richiesta che veniva dalle stesse città, cioè questi restringevano perché andava bene anche a loro essere ristretti. E quindi su questo sono perfettamente d'accordo, cioè l'importante è, e lo si vede appunto nel caso di quei due, lo si vede nel caso delle Marche, studiato da, da Manfredi e l'altro se non mi ricordo il nome, cioè, il governo con difficoltà interviene per evitare che ci sia la chiusura, cioè che non entri più nessuno. A proposito di chiusure, il caso dei risseduti cittadini di reggimento, no? È vero che si è dei cittadini di reggimento, però in certo momento i cittadini di reggimento non hanno più nessun potere, cioè c'è un passaggio, dico, e ci sono i due momenti, insomma, no? Quanto al discorso aristocrazia e oligarchia, secondo me l'oligarchia usa forme aristocratiche, cioè l'aristocrazia, il patriziato è un'ideologia che in questo senso serve a creare consenso anche presso coloro che non ne godono direttamente, i nobili poveri, l'assistenza ai nobili e così via, rientra in questa idea. Per cui il patriziato non è. Sì, rispondo io. Vabbè, il caso per Wolf, il discorso è un altro secondo me, ed è il discorso che ho già rifatto all'inizio, cioè che qui dobbiamo stare attenti a non fare un arco cronologico così ampio credendo che tutto quanto sia la stessa cosa nel 400 come nel 700 come nel 600. Il discorso però è ancora un altro, e aggiungo, non l'avevo detto, lo aggiungo. Non è mai vero che il mercante non sia interessato alla terra. Il mercante anche nel 200, nel 300 diversifica, come del resto facciamo noi oggi, il proprio capitale andando a comprare la terra per coprire i rischi del proprio mercato. Ma dove la compra la terra? O la compra allargando la propria zona di influenza politica e quindi distruggendo il feudatario che gli si ribella, o liberalizzando subito la terra sottoposta alle servitù medievali, e quindi la privatizza immediatamente e la rimette nel circolo delle vendite togliendola dai fitti perpetui, o altrimenti si allea con il feudatario e spartisce con lui il potere cominciando a prestargli denaro. Cioè dico, anche qui il discorso, io facevo un discorso non tanto di economia quanto di costume di Bertrand Schaub, che dicevo è la stessa, nel senso che non c'è una forte osmosi, quindi dico basta prendere Caggese, lo discutiamo e si può ritornare a fare il discorso Caggese e Fiumi. Però dico, a un certo punto ha ragione Fiumi quando dice che in fin dei conti il cittadino mercante era anche presente in campagna e quindi a questo punto era anche lui uno che investiva nelle terre, altrettanto quanto la feudalità. La feudalità dove resta? Resta come una pelle di leopardo laddove, essendosi alleata al comune, non è stata sottomessa, non è stata espropriata. Laddove quindi quella feudalità è riuscita a reggere nell'alleanza con il comune, questa feudalità è arrivata fino al 500. Questo è, dico, mi pare il discorso da fare. L'altro, sì, ma insomma, direi, terrei troppo banco e lasciamo. La signora, che volevo dire? Mi pare che siamo d'accordo, cioè, quando si diventa cittadini di reggimento, questo non vuol dire che si entri a far parte della cerchia reale di potere. Ecco, sì, l'apertura però, l'apertura è, per ora mi sembrava che anche la correlazione fosse vista a questo livello, cioè a livello, a livello istituzionale, che è quello a cui si diventa cittadini di reggimento. Comunque, direi che sono cose... Quando i nomi ricorrere, sì, anche lì evidentemente il quadro è abbastanza complicato. Io direi che sono senza... Non ho minimamente voluto sostenere, credo che venisse fuori, che la nobiltà è una classe nel suo insieme, assolutamente. Quindi è un ceto, è un'altra cosa. I nobili poveri, secondo me, partecipano indubbiamente anche dei benefici della nobiltà. Questo mi sembra che sia stato detto, e non sono solo partecipi di un'ideologia, sono partecipi realmente anche di un sistema di potere, peraltro. Credo che dalle relazioni di Bertelli siano venute fuori due cose di rilievo, cioè da una parte il problema, se volete, del rapporto città-campagna da affrontare forse in modo un pochettino più articolato da una parte, e dall'altra parte il problema di questo complesso di persone, perché ormai scala non rimane altro, che non sappiamo più se è, voglio dire, un ceto, una classe, un gruppo, eccetera. Io vorrei solo ricordare, ho sentito usare anche parole, non si sa che cosa, parole di sapore antico, tipo momento etico e così via, altre parole tipo ideologia aristocratica. Però credo che a quest'ultimo proposito vada ricordato che la ideologia aristocratica è una ideologia che l'aristocrazia ricostruisce, ma per presentare un modello complessivo di organizzazione della società, secondo me non ha tanto la preoccupazione di giustificare se stessa, quanto piuttosto di far passare un certo modello. Ma su ciò il professor Salvo Mastellone. Come Matusalemme della riunione, lasciatemi dire, esprimere i miei più vivi rallegramenti per questa iniziativa. Sono veramente entusiasta, non ho altro da aggiungere. Sia per l'organizzazione, poi per la presenza veramente di tanti giovani, io che ormai sono in Matusalemme. Vi do semplicemente delle indicazioni, hanno anche una loro ragione di carattere pratico, ed è questo. Noi abbiamo organizzato a Firenze una scuola di perfezionamento di storia, alcune tesine le diamo, proprio, sono proprio io, sulla statistica nobiliare. Forse la più bella tesina è uscita sul forno di Tasso. Faccio subito un'affermazione dicendo, se vogliamo fare poi una riunione a Firenze, io non ho i mezzi che hanno qui, non ho conventi a disposizione, sono un laico, ma se volete fare una riunione a Firenze che è molto centrale, io sarei lietissimo di mettere a disposizione, se non altro da parte così, aurea, come dice. Vi volevo dire che si è parlato, il professor Fida ha parlato di questa letteratura francese. Volevo dire che è uscita recentemente la tesi di Joannat sull'idea di race en France, il secondo volume, che è molto importante, vi dirò perché. E della stessa Joannat, la rivista Il Pensiero Politico, ha pubblicato proprio nel primo numero del 77 un articolo sul l'échantillon français et la rapport politique dans la seconde moitié du 16e siècle et au début du 17e siècle, cioè ci siamo nell'arco. Vi volevo aggiungere, così fate l'abbonamento, è vero che noi siamo, non siamo ai tre, ma siamo molto più di Venezia. Dunque, siamo, è una vergogna, ma siamo oltre gli 800. Dunque, che noi pubblichiamo un articolo di Béranger su noblesse e absolutisme in Europa all'epoca della Controriforma, nel prossimo numero. E poi c'è una cosa che volevo attirare l'attenzione, perché credo che il problema interessa un po' tutto: una noterella di Marie-Louise Pelus sulla pensée politique de l'aristocratie sénatoriale et de la moyenne bourgeoisie à Lübeck. Molto importante, perché si vedono che i gruppi sociali leggono opere completamente diverse. Quindi un gruppo senatoriale legge Baudet, l'altro gruppo senatoriale legge invece Althusser. E questa, allora dovremmo rifare tutta la storia del pensiero politico sulla base di queste distinzioni di carattere sociale. Personalmente, per ragioni così contingenti, mi è venuta la voglia, così l'ambizione, di fare una breve sintesi di una storia ideologica d'Europa. Ambizione che soltanto così i vecchi come me possono avere, ma vi volevo dire questo, che in realtà la trattatistica italiana ha avuto una rilevanza europea, Cioè, basta vedere l'indice dell'opera della Journal, c'è tutto un elenco delle opere italiane tradotte in francese, e c'è tutta una lunga letteratura in lingua inglese di queste opere italiane, badate che alcune sono state tradotte dall'italiano, ma altre sono state tradotte dal francese. Cioè, quello che noi presentiamo come un fenomeno locale o provinciale, per amor del cielo, badate che è un fenomeno, scusate che mi permetto di dire, a livello veramente europeo e di un estremo interesse. Io mi auguro che qualche giovane, ce n'è uno qui presente, possa continuare alcuni gola, possa continuare queste ricerche in questo tempo. Sulla base di questa mia esperienza personale, devo scrivere una storia ideologica, un capitolo per forza doveva essere dedicato alla nobiltà, quindi sono stato costretto ad esaminare alcuni aspetti, e quindi naturalmente faccio delle osservazioni che per molte cose sono precisamente delle osservazioni marginali, e sono queste. Ad esempio, comincio proprio dall'ultima per arrivare a diverse relazioni. Per quanto riguarda ad esempio Prodi, che ha citato il Thomassin, io farei un po' di attenzione sul libro del Thomassin, perché Thomassin parla contro i roturier, e in fondo lui rappresenta tutta la tendenza nobiliare, tant'è vero che lui è autore anche di un'opera della usura, proprio contro questo intervento del economico dei nobili nell'attività del paese. Quindi là è una difesa della noblesse d'Europa, della noblesse dei Pico, sia contro i roturier, ma anche contro la noblesse dei Pico. E poi vorrei dire che in realtà questa provenienza sociale è molto importante, bisogna vedere fin dove potevano alcune categorie sociali arrivare, però non ci dimentichiamo, io vorrei tirare l'attenzione curcosa sugli avvertimenti ai nipoti di D'Andrea. Quando D'Andrea fa l'avvertimento ai nipoti, dice: ricordati però che tu puoi prendere anche lo stato ecclesiastico, però tu non puoi arrivare oltre al massimo e diventare vescovo, perché tu non appartieni a una nobile famiglia napoletana. Quindi c'era un limite oltre il quale non si poteva andare per mancanza di una tradizione nobiliare. Veniamo adesso al problema, all'osservazione, alla relazione di Mozzarelli. Esempio questo, la domanda è chiara: esiste un patriziano? Il problema della funzione è veramente intelligente, è veramente innovatorio, ci può mettere su strade nuove. Però non dimentichiamo quella che è una mentalità collettiva. Cioè, qua l'invito di Schia, ci rivolgiamoci alla sociologia, ma rivolgiamo anche a quella che è una modalità collettiva, e non ci dimentichiamo che la risposta non può essere fatta soltanto per l'Italia centro-settentrionale, bisogna farla a livello europeo, dove veramente il problema si è posto soprattutto per quella che è la situazione dei Paesi Bassi e in tutte le città dell'Olanda, della Germania, le città commerciali dell'Olanda. Per quanto riguarda invece l'osservazione della relazione di Donati, che mi è molto piaciuto, era, ecco, io a questo punto mi sono trovato a domandarmi, proprio nella stesura di questo capitolo, che noi dovremmo distinguere due tipi di ideologie. Noi abbiamo una ideologia di sostegno e una ideologia di rottura. Quando il Tasso scrive il forno, è una ideologia, è una letteratura di appoggio di un sistema politico esistente, di un potere già esistente. Quando questi scrittori invece parlano di nobiltà civile, aprono tutto un discorso sulle funzioni di queste famiglie che hanno una nobiltà e hanno le virtù e hanno dei meriti speciali, è chiaro che noi qui abbiamo invece una ideologia di rottura. Quindi facciamo distinzione tra una ideologia di sostegno e una ideologia di rottura. Perché? Perché in fondo qui Wolfare ha ragione, qui siamo ancora in un periodo di crisi dell'aristocrazia, e in questa politica di crisi la nobiltà si è difesa con una certa letteratura, che arriva poi alla letteratura anche come tutti sappiamo, che è di carattere europeo. Si spiega, si dovrebbe fare uno studio di tutte le traduzioni delle opere italiane, delle opere straniere in Italia. Pensate a quella che è stata la fortuna della Menta in Europa, e quella che è stata la fortuna di Sannazzaro. Guardate che Sannazzaro è conosciuto in Europa nella seconda metà del 500, perché ci sono delle ragioni precise e chiare. Adesso veniamo all'ultima relazione, quella di Angiolini, ed è questo. Qui abbiamo parlato, in realtà, io cambierei di termini, e in realtà mi richiamerei, piuttosto che a un modo di produzione, io mi richiamerei a un inglese, Adam Smith. Adam Smith ha capito veramente la società d'anzi regime, l'ha capito veramente, e in realtà lui ha insistito su un altro termine, è il reddito. Cioè, il discorso economico che si avvia non può non dimenticare il reddito. In una bellissima relazione fatta da Paolo Silos a Edimburgo, Paolo Silos, proprio su Adamo Smith, ha richiamato proprio l'attenzione sulla distinzione dei redditi che fa Adamo Smith, cioè la distinzione tra profitto e reddita, cioè profitto e reddita come elementi differenzianti di ceti sociali. Cioè Adamo Smith si è reso conto che queste due forme di redditi, rendita e profitto, e poi salario naturalmente, sono i tre termini, sono state alla base di una differenza di carattere di realtà sociale. Quando noi passiamo invece dalla rendita come possesso, e qui mi ha preceduto, guardate che come possesso noi dobbiamo fare la divisione che facevano i giuristi del tempo, cioè non dimentichiamo questi giuristi, qua ci sta l'amico Iello, potrebbe intervenire, cioè c'era una differenza di possesso. C'era il possesso perdonativo ed è una cosa, c'è il possesso per successione ed è un'altra cosa, c'è il possesso per dote, e qui lui ha ragione, è molto importante, e poi c'è il possesso per acquisto. Cioè nella differenziazione di questi diversi tipi di possesso, noi abbiamo la differenziazione del tipo di rendita che si orienta piano piano verso il tipo di profitto, e acquisto, ed è proprio questo elemento di acquisto che permette, non un processo, io non sono d'accordo con questa affermazione, che ha dato risultati ottimi, senza dubbi, della rifeudalizzazione, ma dal punto di vista strettamente giuridico, noi abbiamo più che altro una privatizzazione del feudo, cioè il feudo che può essere esaminato come un fatto privato e può essere ovviamente venduto e comprato, cosa che non era possibile, soprattutto quando il feudo era donativo. È chiaro che una volta che voi l'avete acquistato, noi abbiamo che cosa? Noi abbiamo un discorso di cercare di ricavare dal feudo quella parte che si è stata investita, anche mia, a parte il prestigio di famiglia, va bene? Ma anche questa, e quindi questo spiega, diciamo, una reazione feudale che comincia subito appena sono acquistati da alcuni ricchi mercanti, sono acquistati da alcuni feudi, i quali vanno a scoprire ma che cosa diventano? Sono gli archivi. Cioè negli archivi c'erano vecchi diritti che questi vanno a scoprire, si capisce al momento della rivoluzione francese, la prima cosa che saranno distrutti non saranno gli archivi perché i contadini erano contrari all'archivo, non amavano gli storici, ma semplicemente perché negli archivi c'erano cose che loro non sapevano leggere, cioè ogni anno 2025 quadrine, 4 volte, e che poi alcuni di questi sono stati pubblicati dai nostri colleghi, sì, alcuni colleghi, ti ringrazio moltissimo, spero di essere stato molto bene. Grazie. Ringraziamo molto il professor Mastellone. Ricordo per gli altri che intervengono che io ho pronti due fogli, uno per indicare i 10 minuti e l'altro per togliere in modo brutale la parola. Quindi il primo foglio può dare ancora qualche minuto di respiro, volendo. Ringraziamo molto il professor Mastellone e la parola al professor Pansini. Facciamo ancora questo e poi dopo... Ho il diritto a un po' di... Ah, se vuoi che ti 15 minuti è abbigliettato. No, poi basta, io non la voglio dire. Da quanto ho sentito, soprattutto poi dalla signora Fasano, io mi rendo conto che la Toscana segni è proprio una isola a sé, ma non solo la Toscana come stato, ma la Toscana nelle sue varie componenti. Il Pisano è diverso, ha delle caratteristiche differenti dal contado e distretto fiorentino, così anche lo stato senese è completamente diverso. Per quanto riguarda appunto il termine, intanto usato in questo congresso di patriziato, io ho sentito anche dire che il patriziato è un modo di vivere insieme, cioè sarebbe una in fondo un termine interclassista, insomma. Ora a me pare che è questo il invece patriziato vada identificato con aristocrazia, anche se nelle varie sue componenti, insomma nella differenziazione della potenza politica ed economica. Per quanto appunto sul rapporto fra struttura statale, fra potere e patriziato o oligarchia o aristocrazia, a Firenze, io trovo da sottolineare, da far rilevare questo. Nella politica dei medici dal 1832 in poi, noi abbiamo un continuo, un progressivo allontanamento della vecchia oligarchia, un depotenziamento delle cariche legate alla cittadinanza fiorentina, che costituiva l'unico privilegio, l'unica classe privilegiata all'interno dello Stato medicio. Lo Stato medicio, quanto a potere politico, si divideva, cioè anche prima, si divideva, cioè aveva due categorie di cittadini che avevano il potere politico: i cittadini fiorentini e i non fiorentini. I non fiorentini, la politica di Cosimo I fu questa, quella intanto dalle ordinazioni del 1532, noi vediamo la abolizione della signoria, la sostituzione puramente formale alla signoria del magistrato dei consiglieri, che poi diventò un tribunale. Viceversa, il sovrano, il principe, si servì di segretari scelti da lui al di fuori della cittadinanza fiorentina, ma anche al di dentro, fra i suoi sostenitori. Quindi questi segretari dipendevano dalla volontà del principe ed erano i vari guidi, i Gianfigliazzi, erano in gran parte cittadini del contado e del distretto. Quanto poi alle cariche riservate alla cittadinanza fiorentina, noi assistiamo dal 1532 in poi a un progressivo depotenziamento. Noi abbiamo le magistrature collegiali, i capitani di parte di repubblicana memoria, i 5 conservatori, gli 8 di pratica, i 9 conservatori della giurisdizione del dominio fiorentino, i quali erano nominati per tratta o per nomina diretta nell'ambito di alcune categorie ristrette di cittadini fiorentini. Questi organi collegiali ebbero in realtà ben poca incidenza nella vita amministrativa. Il Granduca, accanto a questi organi collegiali, nominò una burocrazia a vita, dipendente direttamente dalla sua nomina, mentre chi copriva queste cariche, questi organi collegiali, era nominato a tempo, da 3 mesi a 1 anno, a 2 anni al massimo. Quindi la cittadinanza fiorentina diventa, direi quasi, diventa una pura lustra, diventa cioè l'attribuzione di una posizione di onore, ma puramente formale. In realtà il Granduca gestisce il suo potere direttamente attraverso gli auditori e i cancellieri. Vorrei osservare ancora questo. Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, noi sappiamo che essa era affidata, la giustizia civile, alla ruota fiorentina, composta di giudici non fiorentini. Ora, le classi che erano legate al sistema giuridico, al sistema degli appelli, le classi non patrizie per necessità, erano anche quelle meno più umili, i cancellieri, gli attuari, e questo era il retroterra sociale di questa struttura statale che in fondo dava da vivere anche anche a coloro che non erano privilegiati, ma erano cointeressati alla sussistenza degli abusi e delle disfunzioni. E questo è un risvolto sociale che andrebbe messo in rilievo, in quanto interessava al mantenimento dell'ancien regime anche le classi più diseredate. Questa riflessione non mi pare sia stata fatta, e penso che sia di particolare importanza, anche perché ci spiega come in Toscana la codificazione, a parte il codice commerciale francese napoleonico, che fu mantenuto dopo il 14, fu fatta molto dopo il 1314 da Leopoldo II di Lorena. Vorrei dire ancora un'altra cosa sulla base economica del patriziato. In Toscana si assiste, dopo il 1532, alla trasformazione delle arti, allo svuotamento. Quindi il patriziato esercitava in regime di monopolio alcune industrie della mercatura. Quanto poi al sistema finanziario, e qui mi riattacco a Bertelli, che voleva parlare dei monti. Stavo Io avrei da dire questo: i monti in fondo erano dei coacervi, erano il debito pubblico in fondo. Per qualche operazione, per qualche finanziamento straordinario, per far fronte a determinate calamità, spesso i granduchi contraevano dei debiti. Questi debiti, è vero, poi erano destinati al pagamento degli interessi del capitale, proventi di tasse dirette o indirette. Il Monte del Sale, per esempio, fu appunto dovuto a un debito contratto dal Granduca, dai Salviati, se non mi sbaglio, e fu pagato appunto con un aumento sul prezzo del sale. Quindi in queste operazioni il patriziato o l'oligarchia o la classe dirigente ebbe gran parte, appunto perché commerciava anche in questi titoli. C'è poi un grosso fenomeno, quello dei monti comunicativi, che erano degli istituti di prestito su pegno. Anche quelli rappresentavano, prima da un certo punto di vista, a volte un impiego di capitale da parte di congregazioni religiose, di privati, ma anche servivano a impiegare tutti quelli che erano un po' collegati, diciamo così, alla classe dirigente sul piano locale. Non intorno al... finisco. No, 5 minuti. Questo è il primo video. Intorno al 1650, studiando un pochino le carte del Monte Pio di Monte San Savino, mi è venuto fatto di guardare delle circolari dei nove contro l'eccessivo numero di impiegati che facevano andare in passivo i bilanci, le finanze di questi monti. Anche questo l'istituzione di questi monti come, diciamo così, come un che sorgono come istituti di beneficenza, poi poi diventano un mezzo per procurare benefici o dei vantaggi alla classe dirigente anche sul piano locale. Lo so perché. Sì, no, io una cosa solo, perché appunto non l'avevo detta prima, volevo rispondere a Stuart Wolf quando parlava dei monti, diceva il monte e il monte delle doti, aggiungendo a te. Dico, il problema centrale dei monti, tu l'hai accennato adesso, il consolidamento del debito pubblico, sì. No? Nel 1342 il governo fiorentino consolida, cioè non paga più, non ritorna più i debiti che ha contratto e invece mette in circolazione le cedole del monte, sì. Che poi diventano merce di scambio con quotazioni di borsa, per cui diventano un patrimonio che tu metti nel tuo portafoglio. Tre esempi ci sono: il consolidamento del monte a Firenze con appunto il mercato borsistico, sì. Diciamo così, sì. Dei luoghi di monte, sì. Ma che sono il debito pubblico, sono i buoni del tesoro. Poi la soluzione data da Venezia, che è diversa. Venezia invece continuerà ad accendere prestiti e a ripagare i prestiti con gli interessi. E Genova che finisce col Banco di San Giorgio, ma che anche quello nasce sul consolidamento del debito pubblico. Il discorso centrale adesso, allora, parlando di aristocrazia, è un altro. Chi gestiva il potere dei luoghi? Perché a un certo momento, Bauschi lo dice per Siena, a Siena arrivano al 40% gli interessi. In genere a Firenze sono il 18%, mentre Venezia riesce a mantenerli al 5%. Cioè è chiaro che chi possiede il controllo, gli ufficiali del monte, sono soltanto i più alti. Se tu vuoi sapere chi è l'aristocrazia fiorentina, tu guardi chi sono gli ufficiali del monte. E tu sai qual è l'aristocrazia, capisci? Cioè dico, questo è uno delle cartine di tornasole migliori per capire i luoghi del monte, per capire il potere economico in mano di chi è. Ma il potere economico non privato, delle banche private, i medici. A potere privato, medico pubblico dello Stato, gestito in proprio da chi va a potere. Guarda, io ti vorrei rispondere a questo modo. Dunque, queste operazioni di consolidamento sono periodiche. Sì. Alla fine del 600 c'è il monte non vacante che blocca, vero, ancora, ma si arriva al 3%, insomma. Quindi, in fondo anche... gli ufficiali di monte sì, sono insomma a capo di queste amministrazioni, però chi dirige la cosa è il depositario, è il Granduca. Quindi hanno la lustra, le mani in pasta, però. Il 530 è l'unica chiesa che ha mani. Appunto, dopo. Ma si decide da sola che premio di interesse darsi. Bene, una situazione per quanto riguarda i monti, appunto, perché ho parlato ultimamente con un collega Kirchner di Chicago, che ha studiato molto la teologia dei monti alla fine del 400 all'inizio del 500. Pare che i teologi, pezzi grossi della Chiesa, soprattutto francescani, protestano in una maniera abbastanza aperta contro i monti, perché secondo loro è una maniera di sovvenzionare i ricchi, perché loro vivono a base degli interessi che vengono dai monti, e invece di imporre tasse pagate ugualmente a tutti i cittadini secondo le circostanze, ecco, i monti non solo che violano le regole della Chiesa contro pagamenti all'interesse, ma più che altro per ragioni sociali. Questo qua è veramente una forma di sussidio alla ristrutturazione o alla rarchia, allora questi francescani ci hanno ragione. Bene, allora interrompiamo per un quarto d'ora, 20 minuti, ringraziando. Io credo che a seconda delle diverse situazioni, delle diverse vicende storiche, lungo e l'alto di questi due termini possano essere reciprocamente genere e specie. Credo che questo sia possibile. In generale, però, sono portato a credere che il genere sia l'oligarchia e la specie l'aristocrazia, perché i migliori sono comunque pochi, ma non è sempre detto che i pochi siano migliori. Per cui, secondo me, l'aristocrazia presenta rispetto all'oligarchia lo stesso carattere di definizione di una classe minoritaria che comanda, però in più presenta una qualità, che è quella di essere la classe dei migliori, che invece l'oligarchia non ha. Se allora noi accettiamo il modello, il modulo dell'aristocrazia come modulo con cui i soggetti politici intervengono nel processo di sviluppo costituzionale, allora ci dobbiamo chiedere immediatamente qual è il motivo per cui costoro pochi che comandano sono i migliori. E questo è il punto cruciale. Perché questi migliori vengono da parti diverse, effettivamente. Perché questa classe dirigente è effettivamente una classe che è composita. E allora ci saranno coloro che vengono giù dalla nobiltà feudale, coloro che vengono su dalla borghesia. Ecco, ci saranno, voglio dire, delle provenienze, delle matrici, delle composizioni sociali all'interno di questa struttura che sono diverse. Ma è importante sapere che questi sono i migliori. E bisogna trovare un criterio per stabilire il perché. Il criterio per stabilire il perché, in fondo, ce lo dà, secondo me, l'osservazione che facevano, mi pare, tutto sommato in sintonia, sia Mazzarelli che Casano. Cioè, è un principio fondamentale che caratterizza questa struttura, è quella del ricambio, della possibilità, piccola o grande, ridotta o aperta, a seconda delle situazioni storiche, ma della possibilità del ricambio. Come è noto, il ricambio è una delle caratteristiche fondamentali che Gaetano Mosca attribuisce all'aristocrazia come classe politica con riferimento generale, no, alla sua costruzione, insomma, della scienza del potere, della scienza politica. Il problema del ricambio è decisivo. E qual è il sistema, qual è il criterio a sua volta con cui questa classe si ricambia? Io credo che qui sì, seriamente entri in ballo il discorso del modo di produzione, insomma. Direttamente o indirettamente, il ricambio avviene mediante l'adeguamento che queste diverse componenti della classe politica, della classe che governa, della classe dei migliori, riesce ad attuare rispetto al mutamento del mercato, delle condizioni di mercato. Complessivo, anche qui, cioè senza formalizzarsi, ce l'hanno insegnato e lo sappiamo che siamo nell'età di transizione, che nell'età di transizione c'è la dominanza intesa nel senso che la persistenza dei fattori si bilancia e solo si può parlare di tendenze e cose di questo genere, ma direi che più in là di così non si può andare. Andare già in lì, secondo me, consente di ricomporre una dimensione che è una dimensione abbastanza unitaria. Una dimensione che, secondo me, ci consente di dire che un caso italiano esiste. Un caso italiano che, in cui magari è privilegiato il modulo aristocratico rispetto al modulo modernizzante dello Stato moderno, ma un caso italiano che ha una sua, acquista una sua logica, una sua dignità, un suo significato dentro al processo costituzionale europeo che ha che esiste, che noi conosciamo. Questa, e adesso ho finito perché credo di essere. Prospettiva, insomma, non so come chiamare, poi diventa questa proposta qui. Tra l'altro ha anche intanto è fuori il dubbio e non se ne parla neanche che si tratta che si tratta di una, non di una ricostruzione storica, ma di una prospettiva tipico ideale, insomma, questo è evidente. Cioè io adesso ho questa preoccupazione, la denuncio, insomma, di cercare di individuare una linea mediana, un filo su cui un bastone in cui posso infilare dentro degli anelli, insomma. Quindi chiaramente è una roba sospesa per aria, ma che però mi serve per dire di qui o di là, insomma. Questa situazione è stata da questa parte o da quell'altra, per tracciare cioè un filo, per ricostruire una mappa, per dotare di senso delle situazioni che altrimenti sono solo belle, ma non sono significative. Mi sembra che questa complicazione che propongo del modello dello Stato moderno con il modulo aristocratico, come l'ho descritto, consente di dar conto di alcune situazioni, di alcune devianze, direi, no? Proprio relative al processo di modernizzazione, che sono note, chiunque conosca appunto quali sono i tratti di fondo del processo costituzionale europeo moderno. Per esempio, il discorso, adesso però dobbiamo trovare perché è inutile che mi sforzi a... la presenza, fin dall'inizio, stamattina oggi non c'è Piro, per esempio, che doveva venire, devo di Poni, quale sempre sugli annali 2, pubblica un articolo sulla situazione economica a Bologna ai primi del 600, in cui cerca di dimostrare, secondo me con un certo successo, come ci siano pesanti posizioni di rendita nella fase di accumulazione primitiva a Bologna. Appunto, per esempio, la persistenza di queste posizioni di rendita dentro nella fase dell'accumulazione primitiva, di cui questa aristocrazia in un modo o nell'altro è protagonista, è un elemento deviante che potrebbe trovare una certa sua spiegazione utilizzando un modello di questo genere. L'origine e anche lo svolgimento indisturbato per lungo tempo di una concezione e di una prassi che non è più tanto weberianamente professionale della burocrazia, ma che invece è piuttosto parassitaria e letterale. Questo è un altro fenomeno che secondo me condiziona a fondo lo sviluppo costituzionale dell'Occidente moderno e che potrebbe trovare una spiegazione con un modo di questo genere, che ha delle radici, secondo me, chiare in molte cose che vengono dette con riferimento alle situazioni specifiche del caso italiano. L'esistenza per lungo periodo di una struttura che non è solo di costume, ma di cui anzi è stata più volte rivendicata e dimostrata la valenza politica e costituzionale, quale quella della corruzione, fenomeno importantissimo che attraversa tutta la storia costituzionale moderna in tutte le realtà inglese, francese, tedesca, credo anche italiana, fino il ruolo, anche recentemente ribadito, persistente se non aumentato, nel nuovo modo tecnico, professionale di organizzazione del potere della Corte. C'è una bibliografia recentissima molto, molto, molto ampia sulla Corte, c'è un revival di studi sulla Corte in cui si tende di studiare dal punto di vista funzionale il ruolo che la Corte, non intesa come uffici, ma intesa proprio come teatro, come momento di rappresentanza, come momento di creazione del consenso, esercita nel funzionamento dello Stato moderno. Tanto che addirittura viene proposta validamente l'ipotesi di lavoro di un'Europa delle corti, no? In cui alcuni di noi sono interessati. La formazione, grazie alla Corte e contro la Corte, nei paesi a sviluppo più avanzato, di quegli embrioni dei grandi partiti d'affari moderni, che sono state le grandi fazioni stazionanti alle spalle dei principali agenti politici, ancora una volta dovunque, in Inghilterra, in Francia, in Germania. Sono tutti elementi ritardanti questa aurora meravigliosa del capitalismo da una parte e dello Stato di diritto rappresentativo e parlamentare dall'altra. Sono momenti ritardanti, ma sono momenti che senza fare corruttismo hanno continuato a condizionare pesantemente fino a oggi quell'organizzazione del potere di cui stiamo studiando le origini. Perché questo è il senso, secondo me, per me, insomma, almeno ci sono dentro, di aver scelto insomma quel periodo. E quel tema, che è un tema vago per ora, e il problema per me era quello di capire se lì per caso si potevano rintracciare le origini di qualcosa che ci tocca noi oggi. Ecco, scusate, cioè un po' così a pasticcio, ma io di più, cioè per adesso, grazie molto. Sì. Vorrei rispondere perché è una cosa molto importante. Io cercavo una risposta a questi quesiti in una serie di un corso universitario uscito proprio da poco tempo. E dopo abbiamo portato avanti un discorso che abbiamo avviato a tour sullo Stato moderno. La relazione conclusiva l'ho fatta. E sono arrivata a questa conclusione, che in realtà questo Stato moderno, quasi il suo tanto, dal punto di vista teorico, nasce come Stato moderno amministrativo. La formulazione di questo Stato moderno amministrativo è stata data dalla Repubblica di Modena. Questo spiega come Modena sia stato per oltre 70-80 anni il testo base di tutte le discussioni. Tutti gli altri intervengono per polemizzare contro Modena oppure affermare la stessa posizione di Modena. Quindi che cosa noi abbiamo? Noi abbiamo un gruppo sociale, che è quello degli ufficiali regi, i quali rappresentano questa alternativa politica e quella dello Stato amministrativo moderno. Quindi abbiamo una risposta ben chiara in questo. Stato moderno nasce come Stato amministrativo, con una formulazione di carattere giuridico. A questa formulazione presentata dagli ufficiali regi, che cosa risponde alla vecchia aristocrazia? Che qui è la tua domanda. Ebbene, vedendo tutta la pubblicistica, e scusate se io resto sul piano europeo, che poi queste opere circolavano, e circolavano attraverso la pubblicistica, ma circolavano anche attraverso il famoso viaggio che i nobili facevano, che partivano da Londra, poi andavano a Vienna, poi andavano a Parigi, poi andavano in Spagna, poi venivano in Italia, si fermavano prima a Venezia e poi a Firenze. È chiaro che tutte queste idee circolavano. L'alternativa dell'aristocrazia, guardate che io parlo dell'aristocrazia in questo caso, era o il modello polacco, del quale nessuno fino ad oggi ha parlato, cioè della monarchia elettiva. Guardate che in tutte le librerie, biblioteche nobiliari che io ho trovato, che ho scorso come catalogo, c'è sempre qualcosa sulla monarchia elettiva polacca. Quindi questo modello, ecco, dell'aristocrazia, dicendo sì, noi potremmo avere un modello di tipo elettivo. E questo si ricollegava alla tradizione francese, che Enrico III era stato costretto, quando era diventato re di Polonia, ad accettare il Pacta Convento. Oppure l'altro modello è il modello germanico, cioè dalla Confederazione Monarchica Germanica. Questo spiega una grossa diffusione, e tu lo sai benissimo perché l'ha spiegato questo, della pubblicistica sul Sacro Romano Impero, che non era una politica, una discussione di carattere giuridico, ma era una discussione di carattere politico, cioè si vedeva un ritorno alla concezione dell'impero che avrebbe dato una grossa autonomia ai ceti nobiliari e soprattutto aristocratici. Contro questo modello di carattere aristocratico, che cosa rispondevano quelli che io definisco né come patriziato né come borghesia, ma come ceti produttivi, quali stanno al tiro accanto di loro all'Italia, rispondevano col mito di Venezia. Se noi non teniamo conto del mito di Venezia dalla seconda metà del Seicento, non ci rendiamo conto di che cosa sta succedendo. Cioè, in Inghilterra il mito di Venezia è una cosa importantissima, in Olanda il mito di Venezia è una cosa importantissima. Quindi l'alternativa del patriziato nella prima metà del Seicento fu un'alternativa di tipo veneziano. Va bene, cioè? Che cosa succede però dopo il 1640? E qui viene una divergenza. Una divergenza per cui i modelli diventano due. Diventa un modello repubblicano, patrizio aristocratico, e resta Venezia. È un altro modello del quale non si è ancora fino ad oggi parlato, ed è il modello dei Paesi Bassi, del quale, diciamo, questo modello deve essere una cosa di estrema importanza. Quando il Duca di Pisa viene chiamato a Napoli, e qui ci sono gli specialisti napoletani, perché viene chiamato proprio il Duca di Pisa? Perché il Duca di Pisa deve avere a Napoli la stessa autorità, dice il testo, del conferimento del potere, per gli stessi poteri che aveva il principe Dorances, con la S finale, il errore proprio, Dorances dei Paesi Bassi. Cioè i napoletani hanno pensato ad un modello dei Paesi Bassi, e non erano gli aristocratici napoletani, erano invece questi ceti produttivi o patrizi che quasi cercavano di avere un altro sistema, che era il sistema dei Paesi Bassi. Cioè tutta la ideologia dell'Italia meridionale dopo Massariello, cioè dal mese di settembre al mese di aprile, su questo uscirà un articolo del Pensiero Politico, l'importanza di questa rivista, mira a chiarire che in realtà, non mi dite più, e siamo in concorrenza, mira a chiarire che in realtà i napoletani avevano in mente i Paesi Bassi e volevano un tipo di struttura tale da poter mettere in collegamento le diverse province del mondo napoletano e di sviluppare il commercio come l'avevano sviluppato i olandesi, anche perché a Napoli proprio in quel periodo, tra il 40 e il 50, arrivano alcuni grossi mercanti olandesi che danno l'impressione della floridezza del sistema olandese. E in Duca di Pisa, quando mi vanno a chiedere: ma tu che cosa vuoi fare adesso a Napoli, quando arriva a Napoli? Ah, ma io non voglio fare più il sistema aristocratico, il sistema olandese di ceti produttivi, voglio fare invece un sistema di tipo veneziano. E quello di modelli che si sono differenti, noi dobbiamo considerare in blocco, in una visione europea. Cioè i napoletani, quando si dice i napoletani non avevano ideologia dopo gli avvenimenti di Massariello, si dice una grossa sciocchezza, significa non si è vista questa letteratura dei Paesi Bassi che in realtà circolava e che è stato un modello contrapposto al modello del mito di Venezia, cioè che io chiamo modello veneziano, che è il modello di un tipo di aristocrazia ormai chiusa. Ho finito. Grazie. Credo che dopo questi due interventi il problema che emerge anche è un po' questo. Nel tipo di studi che noi stiamo esaminando, nel tipo di vicenda storica alla quale abbiamo portato l'attenzione fino ad ora, mi sembra che siano aperti entrambi i grossi problemi, cioè problemi che vertono sulla ricostruzione dei vari processi. Dei processi reali, quindi il problema del rispetto delle specificità e quindi il discorso dei casi non solo nazionali ma regionali e addirittura locali spesso, però contemporaneamente rimane aperto, e la distinzione è naturalmente logica, il momento dell'interpretazione, quindi il momento dei punti di riferimento e quindi il momento non delle definizioni astratte, cioè cos'è l'aristocrazia, cos'è Stato e così via, ma il momento in cui in fondo ci richiamiamo a dati come l'organizzazione del potere, l'organizzazione della produzione, l'organizzazione della società nel suo complesso e così via. È chiaro, no? Qui si corre il rischio, se non si tengono congiunti contemporaneamente i due momenti, di perdere tempo, di perdere la strada, nel senso che puntare solo al discorso sui modelli o solo al momento dell'interpretazione può correre il rischio di costruire degli splendidi, diciamo, orologi più o meno funzionanti, quando poi dopo cerchiamo di confrontare questi con la realtà in movimento ci accorgiamo che le cose non funzionano del tutto. Ma voglio dire, questo è un rischio, ma l'altro rischio è anche quello di una ricostruzione che porti non al modello dell'orologio, ma al modello delle nuvole, e cioè in cui alla fine si stempera un po' tutto e ci si rende conto che ci sono stati degli uomini che hanno vissuto, che si sono trovati di fronte al problema, diciamo, di fronte a tutto un tipo di attività che l'hanno risolto in qualche modo. Io credo che questi due momenti debbano essere tenuti congiunti e da questo punto di vista, in fondo, se anche per la modernistica, ma qui io ne parlo veramente da fuori, si approfondisse accanto alla verifica puntuale sui diversi processi storici anche il problema del rapporto veramente con le altre scienze, quel discorso che in fondo sulle varie riviste abbiamo visto iniziare, penso che anche il discorso sulla aristocrazia, come il discorso sulla vicenda italiana ed europea fra 5 e 700, ne acquisterebbe di concretezza e anche di celerità negli studi. Mi riferisco, come si può capire, sia all'ultima scoperta del rapporto storia-antropologia, sia alla più vecchia scoperta, però non ancora adeguatamente maturata, del rapporto storia-sociologia o storia-politologia, da questo punto di vista. Dopo queste belle parole, darei la parola a mia volta a Roman. Mi chiamo Roman, e in effetti ho delle grosse perplessità. Chiamandoti di Roman? Ma ho delle perplessità a parlare, perché quando stamattina mi sono iscritto, chiaramente avevo sentito un gesto che è estremamente composto al suo interno. D'altra parte, se studiamo un periodo lungo, è molto favorevole studiare un periodo lungo, ma dobbiamo necessariamente articolarlo. Particolar modo quando siamo in questa fase, no? Questa fase definita di transizione tra feudalismo e capitalismo, la fase di lungo periodo, che però nel Cinquecento ancora assolutamente una realtà comunale che esista prima, e per il Settecento una realtà nuova del periodo che viene dopo. Non so neanche come si possa trovare in quest'Italia centro-settentrionale delle omogeneità. Schiera diceva prima, cerchiamo un modello. Io credo, sì, come prima riflessione, che non sia possibile trovare un modello univoco all'interno dell'Italia centro-settentrionale per un periodo che va da 5 ai 700. Sarà impossibile mettere insieme uno stato pontificio Umbria settecentesca e uno stato Lombardo, no? E così sarebbe ugualmente se lo esaminassimo nella prima fase. Bene, questo processo evolutivo ultrasecolare mi sembra che a livello oligarchico si concretizza una progressiva atrofizzazione di una vecchia classe sociale, quella feudale, quella che avevamo conosciuto come classe nobiliare nel momento comunale, e venire fuori progressivamente l'affermarsi di un'altra classe egemone, quella borghese, che però in più delle volte tende essa stessa a nobiltà, tende essa stessa ad acquistare una nobiltà col matrimonio, con il broglio, con tutte le possibili accezioni, comprandosi un titolo. Mi sembra che in questo processo evolutivo la nobiltà tende pian piano a imborghesirsi sotto l'influsso dell'azione del mercato e delle spinte di questo, tra virgolette, chiamerai il primo capitalismo, di un protocapitalismo, chiamiamolo come vogliamo, divenendo come una borghesia immatura, con un retaggio feudale. Al contempo, nello stesso tempo, la borghesia mercantile, quella borghesia di origine popolare, coinvolta in un generale processo di rifeudalizzazione, un processo di territorializzazione, e convivendo con un sistema di produzione feudale, tende più delle volte a assumere delle connotazioni che sono proprio di una nobiltà nuova. Quindi parlerei anche di due nobiltà, una vecchia e una nuova, che convivono insieme. D'altra parte, certo, non è che ne parlo io, mi sembra che è quello stadio a cui Engels faceva riferimento alle rivoluzioni dal socialismo, dall'utopia alla scienza, quando parla di una situazione storica che è caratterizzata dalla immaturità di una produzione capitalistica e dalla immaturità di un rapporto di produzione, immaturità di un rapporto di classe. Quel processo che già conosciamo tutti, che dopo l'istanza di Dove ha visto coinvolto tutto questo dibattito sull'età della transizione. Ma la vecchia nobiltà e questa nuova mi sembra, diciamo, dei grossi interessi comuni, no? Anzitutto hanno come interesse comune la potenza economica. La potenza economica di entrambi adesso si basa sul possedimento del terriero, ma il possedimento del terriero è anche il possedimento più conveniente in questo momento in Italia. Wolf aveva detto all'inizio, nei momenti se lo colleghiamo con le fasi di pressione demografica, si può vedere che c'è un incremento dell'ampliamento del coltivato, quindi dell'ampliamento della produzione, per le zone che hanno una fase di incremento demografico. Però certo, forse andrebbe collegato anche all'analisi della storia dei prezzi, no? All'evoluzione delle fasi dei prezzi crescenti. D'altra parte, tutte e due questi ceti, questa nobiltà vecchia e nuova, che mi sembra che però alla fine sia un ceto solo, alla fine a formare una classe sola, si contendono, cercano di ottenere entrambe il predominio sui settori che hanno l'attività produttiva, per esempio del commercio, dell'attività finanziaria in molti casi. I tecnici hanno anche delle finalità politiche. Di qui mi sembra che in questo periodo dovremmo parlare di una convergenza di intenti tra una nobiltà vecchia e una nobiltà nuova, e finché arriviamo alla fusione in un solo ceto egemone dominante, una nobiltà che borghese di tanti aperei e una borghesia feudalizzata. Questo lo vediamo sia studiando per esempio i catastri. Io l'ho notato studiando i catastri, studiando la realtà umbra. L'ho notato studiando l'accaparramento degli uffici pubblici da parte di questa oligarchia cittadina, che è estremamente composita al proprio interno. Ecco, era solo questo, era solo delle perplessità. Vorrei... Io ho riportato, quando ho parlato di più classi, mi sono riferito al patriziato, riportando una definizione che avevo sentito di modo di essere di più classi che convivono insieme, però non identificavo io la aristocrazia in più classi. No, no, a me mi sembrava che lei parlasse di altre classi oltre l'aristocrazia. Naturalmente. Ecco, quindi era in antitesi col fatto che non si poteva parlare di aristocrazia delle classi, secondo me. Certo, il problema forse è molto basso, no? Ma dico, immagino che poi ci fosse tipo di problemi che si continuerà a discutere anche nel corso del dibattito. A questo punto do la parola a Dorelli. Dunque, io ho alcune osservazioni rapidissime da fare. Un'osservazione ad Angiolini. Stamattina, sia nella bozza e sia nella relazione, io non ho sentito parlare della leva fiscale, dell'ordinamento fiscale. Ora, la leva fiscale negli antichi stati italiani, nelle città italiane, è elemento essenziale per capire un momento come andassero le cose, perché questa leva fiscale viene manovrata dai consigli cittadini i quali, così i cittadini, sono espressione nella totalità dei casi, almeno per quanto riguarda l'area che meglio conosco, cioè la Repubblica Veneta, la Terra Veneta, sono nella quasi totalità dei casi espressione della nobiltà, dell'aristocrazia, del patriziato, come volete chiamarlo, e questi consigli cittadini nominano le commissioni di estimatori, le quali fanno gli estimi. E facendo gli estimi noi ci troviamo di fronte a colossali fenomeni di evasione fiscale. Ora, questo è un altro elemento, a mio avviso, da aggiungere nell'analisi del modo concreto con cui opera il patriziato in un contesto specifico, in un contesto urbano o in un contesto più vasto, quale quello di uno Stato regionale. La leva fiscale mi pare appunto uno strumento importante. Per quanto riguarda la relazione di Mozzarelli, ecco, io ho delle perplessità che gli ho espresso anche personalmente sul modo come Mozzarelli ha definito il patriziato. In sostanza il patriziato, mi passo di capire, un modo d'essere. A mio avviso, nell'analisi del patriziato, dell'aristocrazia o della nobiltà, qui alla fine dei lavori bisognerà un momento mettersi d'accordo su come questi termini, queste parole vanno assunte, il patriziato si caratterizza, non dimentichiamolo, per il fatto di vivere in una economia di tipo preindustriale. Un'economia di tipo preindustriale è un'economia in cui il mezzo di produzione fondamentale è la terra. Ora, chi detiene le terre, manco farlo apposta, spogliando naturalmente i documenti archivistici, chi detiene le terre e in genere le terre migliori sono proprio i patrizi, è proprio il patriziato urbano. Nella Repubblica Veneta, per esempio, il catastico del 1740 è abbastanza indicativo di una situazione. Il catastico del 1740 si dice che il 50,87% delle terre catasticate al di qua del Mincio sono nelle mani del patriziato, inteso sia come patriziato della dominante, sia come patriziato delle singole città della Terra Prima. Un patriziato estremamente esiguo su una popolazione di 2.695.000 abitanti, quale era quella della Repubblica Veneta, perché si trattava dello 0,7% della popolazione. Quindi, dico, Marx può aver sbagliato in molte cose, ma diamo di atto che almeno il concetto metodologico di mezzi di produzione e di proprietà dei mezzi di produzione è un criterio interpretativo da tenere presente nell'indagine di un gruppo sociale. Per il momento mi limito a definirlo gruppo sociale, qual è il patriziato. Un'ultima cosa, anche questo molto brevemente, credo di essere in tempo massimo, riguarda il concetto di feudalizzazione. Ecco, io attualmente ho ricerche in corso su 4 e 500 e io sul concetto di feudalizzazione sto entrando in crisi, perché è un concetto che avevo un momento abbracciato con entusiasmo sull'onda della scuola storiografica francese. In realtà io noto che nel 4 e 500, non è che noi abbiamo la scomparsa o perlomeno il ridimensionamento in maniera massiva delle posizioni diciamo feudali o feudali aristocratiche. In realtà, nel corso del 4 e 500, proprio per l'area veneta, mi è capitato di constatare l'incidenza massiccia in termini economici dell'esercizio di diritti pubblicistici di origine signorile, se vogliamo in senso più lato, di tipo feudale. Un caso solo, un'azienda agricola, 139 ettari, con un valore capitale stimato sui 24.000 ducati, in cui un terzo, cioè 8.000 ducati, è rappresentato dal valore capitale delle terre. Il resto è il valore capitale di diritti signorili, cioè è il valore monetizzato, diciamo, dell'esercizio di diritti signorili. Questo a metà del 500. Che mi fa pensare che il processo di rifeudalizzazione, o questo tradimento della borghesia, come è stato affermato, che si sarebbe verificato da una certa data in poi, in realtà non c'è mai stato. Volevo dire un'aggiunta bella, mi pare che sia importante perché altrimenti non ne usciamo. Questo problema che ritorna continuamente, la rifeudalizzazione, l'acquisto della terra, lasciano i traffici, trovano la terra. Prima di tutto, questa terra da qualche parte doveva esistere anche prima e qualcuno doveva possederla. Certamente non la possedevano i contadini, né la possedevano i lavoratori dei ciompi, della lana, di quello che fosse. Quindi qualcuno l'aveva, evidentemente erano gli stessi che la possedevano anche loro. Quindi non credo alla rifeudalizzazione, per dire le parole in soldoni. Se noi andiamo a prendere il volume di Spini, quello che uscirà, non di Spini, ma curato da Spini, in politica e architettura nel Gran Ducato di Toscana, noi vediamo chiaramente, per esempio, che cosa sta accadendo in Toscana. Ma questo qui lo dico come esempio, ma vale anche per Venezia, dirò subito perché. Il Granduca, i Medici, quando arrivano al potere, vogliono estendere la propria potenza territoriale. Ma non possono comprare le terre dell'aristocrazia per il semplice motivo che l'aristocrazia, che se ne dica, era quella che li sosteneva. Quindi a questo punto non potevano andare a comprare le terre di chi li sosteneva. Allora che cosa rimane da fare? Soltanto comprare le terre paludose, no? Che nessuno compra perché naturalmente non rendono, ma siccome loro hanno in mano lo Stato, queste terre paludose loro rendono. Perché? Perché con le corve e con i servizi d'obbligo per tutti i sudditi, queste terre vengono messe a cultura. Ecco. Se questo lo fa il Granduca, a Venezia non è che le cose siano molto diverse, perché il nobile, quando mette a cultura terre paludose o comunque bonifica, non bonifica spese sue, bonifica spese dello Stato. È questo che identifica il ceto, che identifica chi detiene potere. Ecco, finito. E anche in Piemonte è la stessa cosa. Sì. Bene, ringraziamo il professor Borelli. E diamo la parola al prof. Vicini. Dinge. Io vorrei di togliere i titoli. A questo punto. Invece tutto domani. Per domani l'altro presidente si ritroverà come lui. Molto veloce, non un intervento organico come d'altra parte ho scritto anche lì. A me sembra che dalla discussione di oggi non sia emerso un problema che invece dovrebbe dirci qualcosa sulla realtà della docenza nucleare. Cioè non è emerso nulla per quanto riguarda la realtà della vita familiare, della vita affettiva della nobiltà e la trasformazione che questa realtà affettiva subisce nel corso del tempo. C'è l'importanza di questo fatto. È evidente se si pensa anche a quanto ha detto Wolf, per esempio per quanto riguarda il peso che hanno le doti, il peso che ha lo status. Basta dire la diversa maniera con la quale si sposa nel 500 e la diversa maniera con la quale si sposa nel 700. È bene dire che questi sono solo e soltanto dei problemi che io pongo esaminando adesso dei trattati sulla situazione dei nobili che sono stati scritti a Siena nel corso del Cinquecento, perché questa mi sembra una zona completamente non studiata in Italia. È uscito di recente un libro di Stone sulla famiglia, il sesso e il matrimonio in Inghilterra tra 1500 e 1800, che credo per un certo numero di anni porrà dei problemi agli studiosi della nobiltà, perché affrontino, va bene, questo problema della trasformazione, va bene, della realtà affettiva. Stone fa delle periodizzazioni estremamente interessanti, puntualizzando che bisogna distinguere tra alta aristocrazia e nobiltà media, va bene, dicendo come è la nobiltà media quella che in un certo senso è la pacemaker, va bene, delle trasformazioni che la nobiltà subisce. Stone periodizza, dice, c'è un momento di famiglia aperta tra 1450 e 1550, che a un certo punto ci sono delle sovrapposizioni naturalmente di questi obiettivi. Dopo questo momento c'è un periodo di Stone la chiama famiglia ristretta, durante la quale il potere del padre si accentua e lui mette in rapporto, va bene, il peso dello Stato, va bene, il peso del potere dello Stato con questo accrescimento del potere paterno, che paradosso va di pari passo con una famiglia che si preoccupa di più, va bene, dell'educazione dei figli, che ha verso i figli un tipo di affetto maggiore. Se noi pensiamo, va bene, a quella che è la realtà di certi trattati, basta pensare a Alberti, va bene, basta pensare al libro che sto, al trattato di Alessandro Piccolomini che ho studiato io, va bene, ai figli, al rapporto che c'è verso i figli che vengono mandati per due anni, i nobili che vengono mandati da due anni fuori dalla famiglia, va bene, e poi ci accorgiamo, va bene, che un secolo dopo questo fenomeno non c'è più, va bene? E nello stesso tempo ricordiamo che la famiglia nobile, nobiltà media, ha un tipo di rapporto diverso, va bene, nei riguardi del figlio. A cosa sono dovute queste trasformazioni? In Italia non si sa nulla e forse credo sarebbe utile, che incominciassimo a studiarle, soprattutto connettendole anche con ciò che è capitato dopo il Concilio di Trento. E qui vorrei fare delle domande direttamente a voi, ma perché io non le conosco. Stone dice che una delle importanze fondamentali di questi cambiamenti è dovuta a fenomeni religiosi, va bene, e in Italia fino a che punto, se c'è stata la trasformazione della famiglia come c'è stata, è dovuta a ciò che è capitato dopo il Concilio di Trento? Questa era una domanda generale, non si riferiva a nessuno in particolare. Invece avrei una domanda particolare da fare a Donati, va bene? E il professor Mastellone ha fatto presente la rilevanza europea della discussione sulla trattatistica nobiliare che c'è in Italia. È giustissimo, è un problema però aperto, quello della filiazione. Se per esempio il dibattito fra virtù e sangue che si svolge in Francia tra 1560 e 1580 sia direttamente derivato dall'Italia, se ne discute, ne discutono degli beni, ha discusso, ne discute un altro storico americano, Schalk, e qui la filiazione non è chiara. A me interessa però, interesserebbe sapere come mai ci sono degli esiti diversi su questa discussione, dibattito fra virtù e sangue. Come mai in Francia abbiamo l'esito, a un certo punto si stratificano e si formano dei pregiudizi razziali nel corso del Seicento? E come mai non abbiamo in Italia un esito di questo genere? Donati vis-à-vis mi ha detto che verso la fine del Seicento ci sono dei trattati in cui c'è un notevole accento, c'è un'accentuazione di questo aspetto, questo peso della razza. Però è chiaro che non si è concretizzato come poi succede in Francia a Bourdieu all'inizio del Settecento. E d'altra parte, dico, anche il caso inglese è estremamente sintomatico. Come mai anche in Inghilterra questo non si verifica? A cosa è dovuto? Io non so, forse la notevole mobilità sociale ha creato una sorta di reazione da parte della nobiltà francese, ma la stessa mobilità sociale l'abbiamo in Inghilterra. Il pensiero scientifico in Inghilterra probabilmente era una forma, lo sviluppo del pensiero scientifico nello stesso periodo era una forma di non lo so, è stata una delle ragioni per cui certe argomentazioni non sono state accettate. Non saprei rispondere. Ho qualche minuto ancora? Bene, allora, un paio di minuti soltanto. Bene, Schiera ha parlato di caso italiani, molto, cerco di unire due o tre cose, ha parlato di caso italiano, non sono d'accordo, ci sono dei casi italiani, è indiscusso, va bene? Perché l'ha rivaluto anche Roma, eccetera, sono delle situazioni troppo diverse del centro-nord. Io vorrei dire questo, vediamo un po' casi italiani. A Siena, nel recente convegno in memoria di Giorgetti, la ISAC ha fatto presente un fenomeno che è estremamente interessante per far capire anche certi, qual è la realtà di certi casi italiani e dove poi hanno portato. Va bene? C'è la lotta per impossessarsi dei territori comunali. Va bene? Qual è lo sbocco poi quando una volta la nobiltà si è impossessata? Il contratto di mezzatria. Questo stesso tipo di lotta sul canon in Inghilterra ha dato un tipo di sbocco completamente diverso. Sintetizzato in forma, in Inghilterra abbiamo avuto il freedom without property, cioè la libertà senza proprietà. Va bene? Se non avessimo avuto questo tipo di sbocco, va bene, in Inghilterra non ci sarebbe stato lo sviluppo del capitalismo dell'agricoltura. Ecco, da cosa è determinato questo tipo di soluzione così precoce in Toscana? Su questo non sono d'accordo con Sergio, che non ci fosse una precoce proprietà contadina. Forse non era molto forte, ma c'era. E secondo me ha determinato il tipo di scelta che i proprietari mondiali sono stati obbligati a fare. C'è una tesi di Brenner sul past and present del 76 e secondo me è estremamente interessante. Questo rapporto di classe ha determinato la scelta, va bene? La diffusione del contratto di mezzatria nel 400 erediti l'ha evidenziata benissimo, va bene? Perché? Probabilmente perché non potevano imporre un tipo di soluzione diversa. Questo tipo di soluzione, contratto di mezzatria, ha condannato l'agricoltura toscana per tre secoli, non c'è dubbio, non abbiamo avuto l'agricoltura lombarda, insomma. Grazie a Di Simplice. Per quanto riguarda questa storia dei casi italiani, vorrei ricordare che è un problema che noi ci teniamo dietro dall'unità in poi. E non vorrei che per questa via riproponessimo quella cosa che tutti con molto sdegno abbiamo superato, decadenze o anticipi. Nel caso italiano da noi si parla dall'unità in poi per vendere sostanzialmente due cose diverse. O il caso italiano è legato a una meravigliosa missione di questo paese di anticipare di solito lo sviluppo, oppure di mediare il discorso delle terze vie, di qui il mio terrorizzato rifiuto piangere su ritardi, decadenze o sottosviluppi, dovuti però di solito non si precisa mai molto che cosa. Gli stranieri oppure... Dico, quindi parliamo sì di caso italiano come ricerca di specificità, ma cercando secondo me di fare riferimento a punti precisi ogni volta esplicitati, perché altrimenti rischiamo di complicare ultimamente il caso. Devo solo un minuto senza disperdere la discussione, ma per prendere una suggestione dall'ultimo intervento. A me sembra che il problema dell'educazione sia abbastanza interessante, per vedere come dalla situazione del 400, in cui la famiglia dell'Alberti si riserva la possibilità e la capacità di educare i propri figli, adesso lo semplifico in modo estremamente schematico, questa funzione invece viene delegata con lo sviluppo delle istituzioni statali, eccetera, a un apparato che tende a costruirsi come autonomo, l'apparato educativo che nasce per appunto in questo periodo, lo moltiplicate i collegi per nobili, eccetera, eccetera. Quindi, a mio avviso, questo problema può far vedere come la stessa evoluzione del centro nobiliare in effetti partecipa proprio di un'evoluzione delle strutture statali nella misura in cui arriva non certo a disinteressarsi dell'educazione dei propri figli, ma ad affidarla, e non dico allo Stato perché questo sarebbe dire troppo, ma insomma ad un intervento, diciamo, pubblico che è ancora misto, Stato-Chiesa, insomma, come il sacro dei popoli di Gesù, ovviamente ma che appare una forma del tutto nuova proprio rispetto all'antico modo di concepire il rapporto educativo nella nobiltà fondale del vecchio tipo mondiale nella società medievale. Grazie per la... Ma anche qui Brizzi, che era quello che era oggi portava. Sì. E purtroppo... La parola al professor Filippo. Io comincio a forza di cose con una serie di scuse non richieste. Io sto un po' a uno dei petita della lettera di convocazione, cioè riferisco su un lavoro in corso, un lavoro cominciato da poco, che tocca questioni particolari, in gran parte marginali rispetto al tipo di dibattito che si è svolto fino adesso. Darò quindi le grandi linee di una cosa piccola. È un lavoro che vuole risolvere più che altro alcuni problemi definitori, una questione di metodo e un problema ricostruttivo. Problemi definitori. Abbiamo notato, qualcuno l'ha sollevato, Groman per esempio, è un'esigenza che credo tutti abbiamo di fronte stasera, che non, pur ritenendo che ci siano definizioni stipulative funzionanti, in realtà non le abbiamo. Ciascuno di noi, anche per il punto di vista da cui si pone, usa con sfumature più o meno diverse la stessa terminologia, non c'è una coerenza terminologica con la quale possiamo intenderci senz'altro rapidamente e senza equivoci. Il problema mi si pone rispetto alla questione proprietà. Si è detto molto spesso, si è parlato delle proprietà di questi cibi. Io l'ho affrontata questa questione dal punto di vista penalistico, cioè i reati contro la proprietà, e mi sono accorto perlomeno di un problema, che sta nel fatto che si ha talora la proprietà di un fondo, ma questo fondo è la base di una serie di diritti che vengono letti in termini di proprietà anch'essi, di prerogative che vengono letti in termini di proprietà, ma rispetto a questa sfera di tipo proprietario c'è una diversità di trattamento anche sul piano penalistico che è di grande rilievo e interesse. Tanto per banalizzando, fare un esempio: se un contadino ammazza un'anatra selvatica, non ruba un'anatra del signore, perché l'anatra non è di nessuno, però incide su un diritto che è esclusivo del signore. Allora questo è furto dell'anatra o è qualcos'altro? Di fatto il contadino viene punito con un ladro. Io mi faccio per esempio riferimento a un lavoro recente di Chaussineau-Nogaret, con alcune precisazioni che sono state fatte da un rendiconto che ne ha fatto Capra. Ecco, la proprietà è l'insieme di queste cose. E essere proprietari del fondo, ma essere anche proprietari di tutte quelle cose che ineriscono a diritti che si hanno in ragione di questo dominio sul fondo. E rispetto a questa definizione mi interesserebbe anche un aiuto da parte dei presenti che potessero intervenire su questo punto. La questione di metodo è quella dell'applicazione della nozione di illegalismo, che a mio giudizio è un bel passo, un modo di arrivare a risultati più rapidamente che non attraverso la vecchia nozione di reato o atto lecito. C'è un terzium possibile in termini tecnici che è quello dell'illegalismo e che è utilizzabile. Il problema ricostruttivo è la nascita del moderno meccanismo di criminalizzazione. E qui mi leggo un po' a un'esigenza che Schiera poneva molto chiaramente, quella cioè di vedere come certi meccanismi, per esempio quello di criminalizzazione, si sono presentati, non dico per forza di cose per la prima volta un bel giorno, ma si sono presentati in una certa fase con una tecnica di costruzione del meccanismo stesso che poi ha avuto vita lunga e che ancora oggi viene utilizzato. Il tema è piccoli reati contro la proprietà e contro i diritti feudali, intesi quindi come interessi di tipo proprietario. In che cosa consistevano? Ne faccio un elenco molto rapido per dare conto dell'arco di problemi che sono in presenza. Furti intanto, certamente, però piccoli. perché questo tipo di comportamento ha un trattamento particolare, cioè può essere assimilato a un illegalismo. Di fatto non viene sempre e certamente perseguito il piccolo punto. Appropriazione indebita, in senso tecnico, l'appropriazione indebita è un'appropriazione indebita, in senso mediato come effetto di frodi, occultamento di prodotti, per esempio, furti d'uso, varie frodi di diverso genere, abuso di diritti collettivi da parte di chi è detentore di questo diritto, e poi, scusate il bisticcio, uso abusivo di diritti d'uso, che pure è un altro momento, un'altra pratica che incide sugli assetti proprietari. La grande categoria dei danni dati, che è complessa e contraddittoria rispetto a tutto questo, le violazioni di obblighi che abbiano risvolti economici, nel senso che chi li viola ne trae profitto, e l'invasione di diritti o di sfere signorili, anch'essi con risvolto economico, nel senso che chi invade lo fa per trarne profitto. Sia la sensazione rispetto a queste piccole violazioni dei diritti di proprietà, intesi secondo la presentazione che facevo all'inizio, che conti di più il versante coscienza nobiliare che non quello di interesse economico quando si tratti di perseguirli e punirli. Le appropriazioni sono massicce, anche se di piccola entità ciascuna di esse, e sono relativamente represse, mentre il meccanismo penale scatta in presenza di un significato valore in più rispetto al solo aspetto sottrazione. E diverso è l'atteggiamento nei confronti di furti, anche piccoli, quando sono rivolti contro le attività mercantili di trasformazione connesse alla proprietà terribile. Non è la stessa cosa prendere legna caduta, o magari fatta cadere, e magari prenderla in quantità massiccia. Dicevo, non è la stessa cosa che prendere legna da un carro che la sta trasportando in città perché venga venduta. Questo secondo comportamento viene senz'altro e duramente punito. Dato cioè di un furto che incide sullo stesso oggetto, magari nei rispetti dello stesso proprietario, ma in una fase diversa. Dicevo della nozione di illegalismo. Molto rapidamente si può connotare un illegalismo nel fatto che è un comportamento antigiuridico penalisticamente rilevante, ma estremamente diffuso e rarissimamente punito. Foucault ha introdotto nel lavoro suo recente sull'origine del carcere, una distinzione che poi si trova anche in Marx, nel lavoro sui furti di legna, di illegalismo dei beni e illegalismo dei diritti. Io salto qui tutto il discorso che poi Foucault fa, dicendo sostanzialmente che l'illegalismo dei beni è tollerato e praticato in basso perché coloro che in alto praticano l'illegalismo dei diritti possono coprirsi con questo fatto. I criminali stanno in basso perché con la grande diffusione degli illegalismi dei beni si tenterebbe di coprire l'illegalismo dei diritti. È un meccanismo, a mio giudizio, fondato, ora difficile da illustrare interamente, ma è uno dei terreni sui quali si può lavorare. E sembra incredibile, ma addirittura questi illegalismi dei beni praticati in basso vengono protetti, a volte da interventi ufficiali. Nello Stato Pontificio non è raro nel 600 trovare bandi che puniscono i proprietari che, passata la mietitura, non consentono ai poverelli di raccogliere le spighe cadute. Per 10 giorni bisogna lasciare le spighe sul campo e impedire che ci vadano gli animali, perché questi devono essere così a disposizione dei poveri che se ne appropriano. Si tratta cioè addirittura di un meccanismo che punisce il proprietario se non consente che gli vengano sottratte delle cose sue presenti sul suo conto. Scusa un attimo, ma questo non è sancito da lui, cioè è il legalismo che il povero entro 10 giorni raccoglie le spirite? No, si tratta di un procedimento che protegge queste pratiche. Che non sono però illegali. Non diventano illegali, ma si tratta di una forte limitazione della proprietà a vantaggio di pratiche che hanno la stessa dinamica di altre che possono non essere legali. Parlo di un paradosso di protezione del non proprietario che dimostra come questo meccanismo è profondamente penetrato. Il problema centrale, dicevo, è quello di definire intanto la nozione di proprietà e poi il perché di questo atteggiamento. E qui concludo molto rapidamente. Intanto bisogna chiarire che non c'è una coerenza assoluta. In genere è vero che si tollerano certi comportamenti sottrattivi, ma capita anche che si taglino mani, si macchino ladri, si applichino anche condanne a morte, in certi casi di recidiva molto reiterata. Mia opinione è però che non si punisce in questi casi il furto, ma qualche altra cosa, per esempio l'affronto. Se il furto viene praticato in un modo tale che c'è affronto, che c'è un'offesa, oppure il pericolo che questo può determinare, si interviene qualche volta in qualche caso perché c'è un qualche pericolo per le proprietà o per la tranquillità generale, oppure si puniscono altre cose che non c'entrano con l'episodio ma che riguardano il rapporto tra il signore e l'autore. La pena è comunque prevista, fulminata in maniera molto chiara, certe volte molto alta, la pena edittale, quella prevista nella norma punitiva, e seppure i puniti possano sembrare molti, in realtà sono pochissimi rispetto agli autori. Gli autori sono la quasi totalità, una fascia enorme di autori, rispetto ai quali i puniti, seppure in assoluto abbastanza numerosi, sono relativamente molto poco numerosi. Perché tutto questo? Intanto, io credo, anche se questo è un elemento molto vago, c'è una presenza di meccanismi capitalistici o tra virgolette borghesi, ma non di mentalità. Noi vedremo è la classica opera di Marx, di questi tutti di legna con l'intervento legislativo che sposta sul versante della criminalizzazione, cioè del reato, certi comportamenti, ed è un meccanismo che Marx usa come esemplificativo della nuova mentalità borghese al potere. Cioè, gli elementi di mentalità hanno notevole peso. Hanno peso anche gli elementi di ordine pubblico, non si può punire tutti per ragioni di ordine pubblico. Si considerano le necessità di sussistenza di queste popolazioni, c'è un'ideologia del povero che pure ha un suo peso, c'è un disinteresse per la marginalità del danno, c'è un atteggiamento paternalistico che conta, e c'è un altro elemento che poi qui anche nella discussione di amici che sono occupati di altre cose non è venuto fuori abbastanza, cioè il ruolo di un proprietario particolare che è la Chiesa o l'organizzazione ecclesiastica, che ha un atteggiamento di manica larga, tanto per intenderci, che fa da calmiere generale nel comportamento nei confronti di coloro che infrangono norme. C'è poi, questo è importante, una riserva di potere, è qualcosa che possiamo attribuire a un atteggiamento paternalistico. Riserva di potere nel senso che ci si tiene in mano una carta, si tiene in pugno chi ha commesso certi fatti, non lo si punisce per l'immediato, ma costui si trova sotto una minaccia permanente, cioè è uno strumento di dominio anche quello di consentire certi comportamenti. C'è poi un dato strutturale obiettivo che è l'insufficienza e la corruzione dell'apparato repressivo. Tutte queste cose non sono grandi scoperte, servono evidentemente a capire il perché di un certo meccanismo. Tutto questo dovrebbe anche servire, qui è un altro dei risultati, ma di più lunga gittata, a cominciare a scavare nei rapporti reali tra questi signori e i contadini, che sono poi i rapporti che sono ancora largamente in ombra, ma che ci interessano particolarmente. Io ritengo che lo studio del diritto penale, cioè le prassi punitive, sono centrali rispetto a questi fatti e sono chiavi di lettura di grandissimo valore rispetto agli assetti di potere. Un assetto di potere può essere studiato nella sua struttura ingegneristica esterna o anche dall'interno, e se lo si studia dall'interno, la chiave penalistica delle prassi punitive è una delle più efficaci. Professor Prosperi. Ringrazio per i fini di questa collaborazione. Sono spero che gli altri non sono stati come me, perché altrimenti veramente non oserei. Le mie considerazioni sono molto slegate e che hanno l'unico scopo di provocare, credo, soprattutto uno dei relatori, cioè il professor Prodi, a sciogliere le ellissi dei suoi discorsi che avevamo fatto. Ecco, io penso che per quanto riguarda i temi che si sono trattati oggi, cioè io personalmente sono molto interessato ai temi di storia delle istituzioni ecclesiastiche, di storia della Chiesa, e mi sembra che chi si interessa a questi problemi dovrebbe essere fortemente interessato dai temi appunto impostati in questo seminario, perché mi sembra che si offra qui l'occasione di mutare ottica di indagine per i problemi di storia dell'istituzione ecclesiastica, di storia della vita religiosa, e di affrontarli in una chiave nuova e probabilmente tante da rinnovare molti, molti punti di vista e da incidere anche, forse non marginalmente, sul problema della nobiltà. Ecco, quindi prima di elencare i desiderata da aggiungere all'elenco proposto da Prodi, io premetterei che si ha pieno diritto di essere molto scontenti per il modo in cui è andata avanti negli anni che abbiamo alle spalle la ricerca sui temi di storia della Chiesa e della vita religiosa. I difetti che Copen ha elencato in una sua recente rassegna sono tutti molto evidenti e palesi, non mi metterò ad elencarli. E fra l'altro aggiungerei che certi indirizzi di storia sociale e religiosa, recenti o meno recenti, tendono a impostare, a importare metodi, problematiche, appunto, mediate dalla storiografia francese, in una situazione in cui i lineamenti istituzionali non sono ancora per niente chiari. C'è un libro recentissimo, appena uscito, di Denisei sulla Chiesa nella vita italiana del 400, che è un durissimo atto d'accusa contro gli storici italiani, contro certe loro manie, motivato dal fatto che Denisei non è riuscito, se non con grandissima fatica, a ricostruire, per esempio, l'elenco delle diocesi italiane del 400, l'elenco delle diocesi italiane del 500, l'elenco dei vescovi. Cioè, per un'epoca che va, grosso modo, dal 300 al Concilio di Trento, per un'epoca quindi centrale per molti fenomeni di problemi di preparatori, soprattutto centrale per i temi di storia della Chiesa. In una situazione di questo tipo, io sono molto più sensibile appunto a proporre ricerche analitiche piuttosto che alle esigenze, peraltro giustissime, che per esempio Schiera proponeva poco fa. Cioè, mi sembra che per noi, per questo settore almeno, che non è marginale, è il momento di impostare ricerche di tipo analitico, più che correre all'analisi, alle cose sintetiche. Ma vengo appunto alle domande relative soprattutto alla relazione di Prodi. Prodi ha parlato di mobilità sociale ed è certamente questo uno dei punti chiave della storiografia sulla cultura e sulla vita religiosa italiana dell'inizio dell'età moderna. Cioè, direi un tema che è ripreso dalla letteratura storiografica, non soltanto storiografica, ma letteratura umanistica. Credo che i moduli che si ritrovano nella storiografia siano gli stessi di quelli che si trovano, per esempio, nelle vite dei giovani illustri di Vespasiano da Bisticci, cioè il modello appunto dell'ascesa, dell'ascesa sociale legato alla cultura, per cui il povero, il figlio di povera di umile gente, attraverso la cultura, il beneficio ecclesiastico e la curia romana, ascende socialmente. Bene, io credo che questo modulo, io non credo che per il modo della ragione, io credo che questo modulo debba essere sottoposto a verifica. Me lo faceva sospettare anche questo accenno di Thomassin. Il saggio della Edelstein, che poi vi ricordava, tra l'altro contraddice molto quello che Thomassin dichiara. Cioè, la Edelstein nota che non esiste mobilità sociale nella Chiesa francese prima né dopo il concordato del 1516. C'è un'analisi della situazione sociale dell'episcopato francese mostra che si è strettamente all'interno della nobiltà, con una distinzione semmai tra noblesse de robe e noblesse de paix, che spiegherebbe, e qui appunto l'allusione di Bosona Salone era chiarificatrice, spiegherebbe il perché della polemica di Thomassin contro l'arrivo dei loti uditi, no? E come per l'Italia questo lavoro è tutto da fare. Penso per esempio all'osservazione di Georges Alain nello stesso volume in cui c'è il saggio di Derrimo sulla mobilità sociale nell'epoca del Rinascimento. Georges Alain nota che a Venezia nel Settecento il patriarcato di spettanza dei nobili veneziani, mentre ai cittadini spettano le cure e i canonicati della città di Venezia. Ecco, io credo che quando saremo in possesso di una serie di dati continua di questo genere, allora potremo mettere con i piedi per terra e il discorso sulla mobilità sociale e anche altri discorsi sul rapporto fra benefici ecclesiastici e composizione dei quadri sociali dell'epoca. Quindi io credo che tra gli obiettivi che noi abbiamo immediati ci siano questi, cioè intanto rilevare la composizione sociale dei vari corpi ecclesiastici e poi, io sì, ribadirei la mia direzione per caso, cioè ricostruire le vicende, i conflitti politici attraverso cui si arriva in un arco di tempo che deve essere preso molto a monte rispetto al Concilio di Trento e che coincide con l'inizio di molti dei fenomeni di cui oggi si è parlato, ricostruire appunto caso per caso i conflitti politici attraverso cui si arriva a determinate scelte per ricoprire i benefici più importanti sotto questo. E quindi sfruttare le fonti cancelleresche e diplomatiche, che sono solo parzialmente studiate e sono state studiate molto tempo fa. E non si tratta in questo caso, direi, soltanto di fare una cronaca dei conflitti e dei compromessi tra Stati e Curia Romana. Si tratta di rispondere alla domanda perché gli Stati italiani si trovano a regolare le scelte della composizione del corpo ecclesiastico caso per caso, litigando, accordandosi con Roma, al di fuori di ogni misura complessiva, tipo la drammatica sanzione. E questa misura complessiva era presente nei quadri diplomatici dell'epoca e nella mentalità dei uomini di governo di quest'epoca. Mi ricordo un accenno fatto da Montuto e Fumi su Stato e Chiesa a Milano. L'oratore milanese a Roma, nella seconda metà del 400, minaccia il Papa di ricorrere appunto a una misura tipo la drammatica sanzione se il Papa non acconsente ad una certa nomina. E si minaccia addirittura il ricorso al concilio, la convocazione al concilio, eccetera. Ora, perché non si fanno salvo nel caso di Venezia, no? Non si ricorre a provvedimenti di questo genere? Debolezza politica degli Stati italiani? Probabilmente, però direi che è la causa di questa debolezza che va indagata, ove non si voglia seguire la vecchia proposta machiaveliana per la capacità della potenza politica del papato di inibire la crescita politica italiana. Io non credo che sia questo da seguire. Vivanti ha ricordato, credo molto giustamente, che il papato avignonese non creò nessun pericolo per l'autorità francese, mentre per gli Stati italiani le cose andavano diversamente. E credo che qui bisogna ricordare che spesso nel gioco con la Curia i principi italiani trovarono ben altri vantaggi che in una eventuale normativa che lasciasse all'interno dello Stato la disponibilità dei benefici ecclesiastici e viceversa, oppure a fortiori singole grosse famiglie trovarono nel rapporto con la Curia possibilità di accesso a grossi benefici ecclesiastici che i piccoli stati d'origine non erano in grado di concedere. Comunque credo che solo appunto attraverso un'analisi si riesca a rispondere alle domande che sono ancora domande preliminari. Ma sulla base della messa a punto di Prodi, io pensavo che una storia puramente istituzionale del modo in cui vengono utilizzati e distribuiti i grossi benefici ecclesiastici e le prebende in questa età non basta più, come non basterebbe un rilevamento sociologico della composizione dell'alto clero negli Stati italiani, che pure va fatta. Si tratta di andare più a fondo nell'intreccio tra rapporti sociali e ideologie religiose. I processi sociali di cui si è parlato stamattina avvengono in un'epoca che è contrassegnata da grossissimi fenomeni nell'ambito delle culture ecclesiastiche e delle idee religiose, e credo che non si possa sfuggire al confronto. E quindi da un lato si tratta di studiare il valore specifico che assume ai fini della legittimazione del potere tutta una serie di oggetti e di realtà appartenenti alla sfera religiosa. Ricordo un esempio molto bello fatto da Drexler, che ha ricordato il conflitto tra Cosimo il Vecchio e il Comune di Firenze in materia di dotazione di chiese. Quando Cosimo arricchisce di una nuova prebenda la chiesa parrocchiale della famiglia, San Lorenzo, appare chiaro che la vuol rendere più importante, superiore a Santa Maria del Fiore, che è la chiesa del Comune, e perché perciò egli aspira di Drexler al carisma del Comune. E più di un secolo dopo, la cura scrupolosa con cui Cosimo I controlla anche il numero delle ostie consumate nelle chiese del suo Stato, come dice la relazione dell'oratore veneziano, appare appunto agli oratori veneziani come un tentativo da parte del principe di legittimare il suo potere agli occhi dei sudditi, come potere di un principe religioso. E lo stesso procedimento si segue, per esempio, da parte di Farnese a Parma e Piacenza, che fanno sforzi propagandistici molto più intensi per presentarsi ai propri sottoposti come legittimati dalla quantità e qualità di rapporti che si hanno con la sfera del sacro, non soltanto col beneficio ecclesiastico come fonte di danaro, no? Danaro. E di recente, in uno studio che ho visto proprio di recente sulla unità napoletana della Controriforma, sul comportamento collettivo della unità napoletana, si sottolinea appunto una tendenza alla massiccia e ostentata frequentazione di chiese, a una specie di consumo intenso e pubblico di religione. sono casi che si ricordano per illustrare la possibilità di una ricerca sul valore specifico della religione e delle classi dominanti, valore che non si riassume appunto in quello economico. E c'è poi un'indagine parallela e opposta da fare, io credo, quella sul modo in cui le gerarchie ecclesiastiche si rapportano all'ideologia nobiliare. Si è parlato qui molto bene da parte di Donati, appunto, della letteratura sull'ideologia nobiliare. E concludo rapidamente, faccio solo un paio di esempi. Non solo nei trattati sulla nobiltà, ma anche nei testi sulla letteratura esemplare, ricordata giustamente da Prodi, il modello del buon vescovo, si infiltra con estrema abbondanza l'ideologia nobiliare. Il modello di prelato, che viene disegnato per esempio da Girolamo Osorio, che è portoghese, però studia in Italia, opera in Italia, le sue opere vengono edite in Italia e sono rilanciate da Possedino in tutta la letteratura della Controriforma, quella letteratura che si trova nei palchetti di ogni parroco, dell'anno 500. Ecco, Osorio, per esempio, parlando dell'unità cristiana, caratterizza una novità che è insieme di sangue e di costumi ed è fondata religiosamente, no? E Giovanni Antonio Delfino, in un De Nobilitate, minorita di Casalmaggiore, vede addirittura la nobiltà cristiana solidificata nei diversi gradi delle gerarchie ecclesiastiche, questo alla metà del Cinquecento. E ancora, si è parlato che c'è un grosso studio recente sulle somme confessionali come strumento per orientare e controllare il comportamento sociale, ma nessuno ha indagato il rapporto tra questa morale e quella società. Io presento soltanto un caso, lo propongo all'attenzione di chi voglia studiare in questa direzione, ed è il caso di una conferenza sui casi di coscienza stampata per il clero cesenate alla fine del Cinquecento, che è molto significativo. Mi veniva in mente quando Sturruf ha parlato appunto del mantenimento dello status adeguato come dovere della nobiltà. In questa conferenza si consiglia al sacerdote confessante, che ascolta le confessioni, di invitare i contadini a pagare i loro debiti anche a prezzo di grosse fatiche, e di assolvere i nobili che non possono pagare i loro debiti, quindi non restituiscono il maltolto, nel caso in cui questi nobili non lo possano fare perché devono vestirsi in un certo modo, andare con certe carrozze, perché altrimenti la loro immagine pubblica, i loro doveri di ceto non vengono mantenuti. E questo mi sembra, proprio per la solidità della morale cristiana, cioè la sua tendenza a operare in un certo modo sulla società, questa inclinatura mi sembra estremamente significativa. E ancora, come non riflettere, e con questo chiudo veramente mi scuso, sul posto che hanno i contadini in questa letteratura moralistica e parenetica e nei casi di coscienza. Nella seconda metà del Cinquecento e per buona parte del Seicento il contadino è l'elenco dei vizi del contadino, no? La tendenza del contadino a nascondere, a rubare, a capire il prodotto del suolo. Tratteggiato in termini animaleschi. Col Settecento comincia ad avere una letteratura di tono completamente diverso, cioè in cui il contadino è sinonimo di vita semplice, è sinonimo di vita religiosa, contro il cittadino che ormai è invaso dai lumi, ateo, eccetera, eccetera. Ecco, credo che i rapporti tra il religioso e il sociale siano estremamente complicati e che sia appunto vantaggio di tutti ripartire in maniera anche molto, molto analitica e molto prima del Concilio di Trento. Ringraziamo molto il mio appartenente, il professor Prosper, con un appunto che speravo che finalmente si cominciasse a parlare anche di Bologna, invece anche lui è finito sulla Toscana, è paziente, però con l'accenno finale a Cesena, grazie. No, arrivati a questo punto, anche per darvi l'idea fisica che stiamo per finire. No, sì, ma c'era correttore. Se vogliono domani mattina. No. La gente mi prende anche stanca, secondo me. Chiedo scusa se l'avevo preso. Nell'area medica volevo riattaccarmi un attimo al problema della definizione che occorre, secondo me, alcuni criteri di ricerca empirica. Nell'area medica, nelle piccole città e anche nelle grandi, il nobile chi è chi in sostanza di fatto potenzialmente goda del diritto di sedere nel consiglio cittadino. Questo al di là delle differenziazioni di provenienza. Questo è ovvio. Quello che mi ha noto è che se si teniamo questo criterio, i nobili finiscono per essere molti. I dati che io conosco per Feltre dell'1 per la metà del 500 danno maschi adulti di condizione laicale in un valore compreso tra il 2,7 e il 3,5% della popolazione urbana. Cioè, se aggiungiamo i presiati, donne e bambini, qui vedete che i nomi sono veramente un'idea di più. Quindi, c'è, secondo me, è molto urgente, per chi voglia studiare questo gruppo sociale, il problema della sua strutturazione. Che mi pare che ovunque poi la novità sia stata studiata sul serio, si è posto. In Polonia si parla di grande, media, piccola e anche... E si è posto quantificando, questa è la differenza, perché porto in termini tipologici è ovvio oggi che sì, insomma, che ci sono i poveri e i ricchi anche per così questo. Ecco, io proporrei studiare la nobiltà come una moneta avendo un corso locale e per la quale siano sempre necessarie tavole di comparazione. Una eccellente tavola di ragguaglio credo la si possa costruire con lo studio di matrimoni tra sposi di città diverse. Cioè la dote rappresenta, dato che viene esposta in moneta di conto, in qualche maniera la monetizzazione dei livelli di prestigio tra città diverse. Il problema non è secondario perché la residenza extra la città in cui si siede in consiglio è un fenomeno molto generalizzato, comunque notevole, considerevole alla fine del 500. Porto un dato solo. Nel 1595 6 almeno su 70 consiglieri aventi seggio vitalizio a Feltre vivono fuori città continuativamente e vengono alquanto tempo le frumentazioni, cioè in pratica prendono un po' di sacchi di frumento per sera. Quindi questi non sono interessati alle cariche al loro giro, però nobili sono. Vorrei fare un esempio contrario. Un tizio si presenta con tanto di lettere del duca di Baviera e di qualche altro nobile tedesco. E sta bene di fortuna, dice di non essere certamente un meccanico, chiede a Venezia di essere integrato nel consiglio della città sua di origine. Il consiglio fa il diavolo a quattro, però caso, proprio perché lui sia conte palatino o altra cosa, non mi interessa. Per cui io proporrei quindi uno studio della nobiltà che non che tenga, che parta evidentemente per criteri definitivi del concetto, del tipo, dalla città in cui il tizio crede di potersi chiamare no, ma che poi rapporti questa condizione all'interno dello Stato, perché è all'interno dello Stato che si danno le possibilità concrete anche di inserimento e di attività in vari livelli. Chiedo scusa. Secondo punto su cui vorrei dire la mia opinione, non sono convinto che sia utilissimo per studiare i comportamenti economici nobiliari ricorrere a categorie come la non massimizzazione o la massimizzazione del profitto. Buona parte degli investimenti nobiliari della seconda metà del 500 sono nella sfera della circolazione, la quale è notoriamente una sfera in cui non si va leggeri con i tipi di utili. Grazie. Adesso darei la parola al professor Donati che l'ha chiesto, no? Per una specie di replica, intervento, eccetera, e poi dopo chiudiamo. Sì, io... Qui se no non si sente. Ma volevo brevissimamente rispondere ad alcuni che mi hanno fatto le domande o che hanno comunque sollevato dei problemi su cui mi pare interessante intervenire. Prima di tutto Ruffilli, il quale mi chiedeva se il dibattito sull'onore era importante, oltre come l'avevo caratterizzato io, anche come segno di prestigio sociale. Su questo sono perfettamente d'accordo. È che nell'ottica in cui io vedevo appunto la formazione di questo tipo di ideologia, ho trascurato un po' questo aspetto, però su questo direi che non ci sono problemi. Mentre invece mi pare molto interessante la proposta di Ruffilli, mi passa una proposta, di tagliare la testa al toro tra patriziati, nobiltà e cose di questo genere, usando la parola notabili. Ora, io non entro nella disputa terminologica che credo ci potrebbe tenere qui fino a domani mattina, però mi pare di poter dire che il termine notabile non è che nasce nell'Ottocento da questo punto di vista. In tutta la trattatistica a cui io facevo riferimento, uno dei punti essenziali più dibattuti e se il termine nobile viene, scusate il latinorum, da non vilis o da noscibilis. Cioè, noscibilis in questo caso sarebbe il notabile, cioè è molto importante che appunto, per il nunzio viene da noscibilis, cioè il nunzio l'ho assunto come teorico più diffuso di questo patriziato. A questo proposito dirò che nel Settecento in varie biblioteche nobili, chiamiamoli così, l'opera del nunzio si trova ancora lodatissima nella biblioteca Cinelli Calvoli, mentre tante altre opere del Cinquecento di questo tipo sono stroncate, l'opera del Muzio è lodata come ancora lettissima, insomma. È il 1746, questo volume della Biblioteca Cinelli Calvoli. Quindi la proposta io la lascio così aperta, però devo dire che nella terminologia dell'epoca il termine notabile, pur non entrando, rientra nella forma latina. Ecco, questo quindi per quello che riguardava. Al professor Stuart Wolf, che ha posto tra le tante questioni una che mi interessava particolarmente, cioè il rapporto tra stato assoluto e sopravvivenza del mito del militarismo feudale. Ecco, su questo punto, con tutto il problema quindi dei cadetti che vanno a militare in stati esteri, diciamo così. Ecco, questo dalle poche esperienze di ricerca che ho mi pare un punto cruciale e un punto da studiare, proprio perché appunto uno degli elementi che forse è emerso meno, e come giustamente osservava Di Simpli, è quello della famiglia nobile, che è direi uno degli elementi centrali, perché quando parliamo di nobiltà forse parlare della famiglia nobile è un elemento di chiarezza per il discorso. Ora, questo problema della famiglia nobile, quando noi appunto consideriamo che in certi consigli cittadini di città suddite entrano solo i primogeniti, quando consideriamo che i posti, diciamo così, le cariche, anche con un allargamento del campo ecclesiale, dell'impiego di cariche ecclesiastiche è limitato, una delle valvole di scarico della nobiltà che viene a cessare di fatto con la fine delle guerre in Italia è la carriera militare in questi stati, che spesso eserciti non li hanno, o come nel caso di Venezia, non pongono come ufficiale di questi eserciti la nobiltà di terraferma. Quindi questo fenomeno dei cadetti che vanno a militare in città, in stati esteri, per esempio per Verona si trovano elenchi enormi, per Verona mi pare che per altre città della terraferma veneta, per quello che posso sapere, enormi elenchi, cioè quando c'è l'esaltazione genealogica della famiglia, fatto magari alla fine del Settecento, elenchi enormi di militari che militarono col Duca di Baviera o con in altri stati tedeschi, soprattutto stati tedeschi, o con re di Francia, eccetera. È una cosa, è un fenomeno che è solo impressionistico, posso dare solo dei dati impressionistici, però se quantizzato, se reso quantitativo, probabilmente ci condurrebbe a conclusioni abbastanza attente, cioè abbastanza interessanti, cioè sul fatto che una parte, forse grande esagerato dirlo, ma una notevole parte della nobiltà cadetta non va solo nella Chiesa, ma va anche all'estero, soprattutto come militari, anche con altri sviluppi. Scusate che ci prendo anche la domanda, veramente si trova anche in altri stati europei o soltanto la Germania? In questo caso non è molto preciso, non è importante. Sicuro io non li ho trovati. Quello che io guardo è eccezionale. Posso parlare per Verona è abbastanza frequente nei stati tedeschi. È un concetto di tempo e di il professor Mastellone appunto ha giustamente citato il forno del Tasso come un esempio da contrapporre per esempio ad opere come quelle del Muzio, del Paruta o in quest'altra. Questo è giustissimo, ecco, io invece avrei qualche perplessità a definire ideologia di sostegno le une, ideologia di rottura le altre. Ecco, ma questo direi che dalla mia relazione è un po' emerso che c'è una certa disparità di vedute su questo punto. Io credo che siano due proposte che entrambe si vogliono porre come totalizzanti, poi prevale di più l'una, ecco. All'amico di Simplicio, dunque, che mi ha fatto una domanda sul perché siano esiti diversi in Italia e in Francia relativamente a una, all'ideologia più propriamente razzistica della nobiltà, beh, questo direi che è un problema enorme. Io posso dire questo, che appunto da questi studi recenti che si sono avuti, giustamente tu hai citato quello del Deliver, quello dello Shark, si può aggiungere quello del Vuitton, o anche altri recenti studi sulla nobiltà francese, oppure le tesi di Joannat o di Villacroix, eccetera, mi pare che si possa dire questo, che non saprei dire perché, ma comunque la periodizzazione su questa trattatistica nobiliare è abbastanza coerente sul piano europeo. Cioè, il perché non saprei dirlo, ma appare una che è più o meno una periodizzazione ad ampio margine, 1500, che è quella applicata al Deliver, 1560-1720, proprio più o meno, metà del 500, primi decenni del 700. Forse questa propriamente si può chiamare l'epoca, cioè possiamo almeno definire da questo punto di vista provvisoriamente l'epoca che stiamo studiando, cioè l'epoca delle aristocrazie. Non lo so se è possibile. Infine volevo ringraziare il professor Prosperi per le segnalazioni molto interessanti, molto importanti secondo me, cioè dell'utilizzazione della letteratura più propriamente, cioè di tutta la letteratura esemplare, per esempio, questo è senz'altro importante nel formare l'ideologia nobiliare. Questo sono perfettamente d'accordo, è un punto che trovo perfettamente d'accordo. Grazie anche a Donati. A questo punto la seduta è chiusa e io sono un po' sofferente perché avevo delle belle parole da dire, ma purtroppo alle 7 passa l'autobus. Alle 7 qui a Rangolo. Ci sono però alcuni posti.